I trans, l'ha frequentato i trans? Ma io dalla mia voce penso che... Ma che discorsi fanno? Ma perché i trans, che c'è di male? No? Mica sarà razzista nei confronti dei trans? Che male hanno fatto i trans? No, per l'amor di Dio, ma non può... Ma cosa cerca di cosa? Se io ma non balbetti, non si preoccupare. L'ha fatto i trans o no? Ogni no, tanto... baldracche sì, ma trans no. Baldracche sì, trans. Senti come parlano, scusi, poi siamo noi volgari. Io insomma, dai. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Dimmi Monica, dimmi. Sono io, ci sono, mi senti? Sì, vai, dimmi però, veloce, dai. Allora, primo è che voi deridete non sì, dico ma mettiti insultate. Bene col telefono perché sento un ritorno strano, c'è cioè l'auricolare. Guarda, io sono in macchina, abbasso la radio, perché mi stavo ascoltando. Perché mi brava, abbassa la radio, che è meglio, sì. Abbassata. No, proprio spegnila, ecco. Spegnila, dimmi. La spengo, è spenta. Ecco, avanti, dimmi, niente, forza. Volevo le dirvi basi che... proprio ti mancano, dimmi. Niente, le basi proprio, abbassare la radio, spegnere la radio, le basi. Sembra di tornare a 15 anni fa. L'ho spenta la radio, l'ho spenta. Dai, dimmi. Sarò anche rinco, ma non così tanto come vuoi farmi. Non ti voglio fare passare come niente, ma dimmi quello che hai da dire, dimmelo, ti prego. Allora, ti scondi. Senti, allora se parli te, non parlo io. Se stai zitto un attimo, parlo anch'io. Io non sto mai zitto, però parlo. Me ne ti sono prego. Accorta perché ti sto ascoltando e tu. Parla, tu, ti prego. Qualcuno, vi sto dicendo che non tutti la pensano come voi. Non è detto che voi avete ragione, come non è detto che ce l'abbia io. Come si dice, però, grazie, Graziella, fate, aspetta, e grazie al cazzo. Sto parlando, mi fai ma chi se ne frega che stai parlando? Ma chi se ne frega? Ma non mi frega un cazzo che parli te, perché tu non fai parlare gli altri, perché tu sei un ignorante. Monica, cosa vuoi? Voglio capire che cosa vuoi. Voglio dire la mia, se stai zitto. Ma la sono dico. 3 minuti che devi parlare, devi dire la tua, non dici ma un cazzo, porca puttana. Vi intervengo anch'io, signora Monica, le chiedo scusa, lei ha chiamato nel posto sbagliato. Questa è una trasmissione delirante che io ancora non so perché continua ad andare in onda. Lei si trova nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. Qualunque stronzata lei dica, no, ma è così, perché qualunque stronzata che lei dica, 24, questo purtroppo anche è vero. Quando continui a dire cosa volevi dire, poi non mi lasci parlare, sei veramente un povero sfigato. Parla, te lo dico col cuore. Parla, dillo, dica, parli. È scritta la storia con la signora Monica, ma alla fine che cazzo voleva dire Crucio? Pronto? Chi è? Sono Silvio. Vabbè, ma perché si è creato questo clima? Di cosa voleva parlare tua madre? Voleva parlare della situazione Covid. Allora perché non ha parlato? Perché non l'ha detto? Perché non l'ha detto? Ogni volta che prova a dire una cosa la interrompete. Ma è impazzita, ma l'hai sentito che è impazzita? Tu stesso, tu sei il figlio, 19 anni. Hai sentito o no che è impazzita? Di la verità. Ma è impazzita, no? Sta cercando di spiegare, Non sta cercando di spiegare. Ordine, mettiamo ordine. Lei ha tutta la mia solidarietà. Primo, è una trasmissione da chiudere questa. Lo dico da 10 anni, è vero. È una cosa. Però c'è. Perché sua madre, dannata la miseria, telefona? Se considera la trasmissione uno schifo, cosa che la considero anch'io da 10 anni che la faccio, perché sua madre chiama? Perché chiama? Perché? Il collegamento da Roma, David Paranzo, buonasera. Stiamo per assistere al cambiamento della storia. Il cosa? Popolo americano, la più grande democrazia del mondo, sta pazzo. Per mandare a casa quel signore negazionista con i capelli gialli che ha dichiarato guerra a mezzo mondo. Ma popolo veramente? Americano, il popolo della zanzara è con voi. No, ma non è vero. A casa Trump, Biden, you are the win, you are the new president of the United States of America. Thank you, the great country of freedom. Thank you from Italy, thank you from Mosquito Radio, it's close! Sta impazzito completamente. Dal suo lettone ad Abano Terme, Alberto Gottardo. Ma che perché dal lettone? mi mancherà la più gran, la più gran gnocca come first lady della storia degli comunque, Stati ragazzi, Uniti, perché Melania Trump è la migliore in assoluto. Ragazzi, non date per morto il vecchio trampone. Ma no, ragazzi, non succede, non succede, ma se succede, ragazzi, domani trasformo questo studio in una sarabanda che voi nemmeno avete idea. Non succede, come si può fare? No, ma non succede. Ma Melania ha votato senza mascherina, peraltro, una vergogna assoluta. Ragazzi, non mi interessa. No, è una vergogna mettere la mascherina a una bella donna così. Dovrebbe avere il diritto di girare senza mascherina. Vuole licenziare Fauci. Ragazzi, non succede. E chi se ne frega? Non succede, ma se succede, vi dico solo questo: se succede, vi posso dire una cosa oggi alle 18:40. Per chi sente il podcast, saranno le ore che saranno. Sempre che il podcast funzioni, naturalmente, perché abbiamo anche una spinta di messaggi. Uno lo può ascoltare a qualunque ora. Beh, sì, certo, grazie. Ma cosa c'è? La grande innovazione, dai. Che boomer FM è morto, dai. La diretta, dai. Non serve il podcast, è il futuro anche della televisione. Sì. Ma dovrebbe essere tutto. Ma dovrebbe essere tutto il podcast. Ah, certo. Non interrompersi dopo un'ora. Esatto, esatto. Allora, ragazzi, però voglio dire una cosa. Posso fare una promessa ufficiale qui? Se domani non succede, dunque posso dire qualsiasi cosa. Sì, esatto. Però se succede, se dovesse accadere, ti giuro. Ti voglio con il culo a stelle e strisce. Io voglio il tuo culo disegnato a stelle e strisce. Domani vi faccio vedere il culo, sul culo. Faccio vedere il culo sul culo di Cruciani, in webcam con le stelle, a stelle e strisce. Me lo faccio disegnare a stelle e strisce. Ottima idea di Gottardo. Inizio a sperare che vinca Trump solo per questo. Mi metto nudo qua in studio col culo fuori a stelle e strisce, ti giuro. Ti giuro, perché sì, perché sarebbe il trionfo del più grande irregolare della storia, diciamo la verità. Poi la chiudiamo. Non me ne frega niente, il è più grande di fake news. Irregolare, erotomane, tutto quello che speriamo che sia un presidente degli Stati Uniti, che è stato per quattro anni, ancora quattro anni, un grande ragazzi, non mi fate emozionare troppo se dovesse accadere, perché veramente faccio di tutto, ma è ancora presto e purtroppo body non accadrà. Painting. Body non painting accadrà. Per Cruciani. Allora, prima di affrontare la questione coronavirus alla nostra maniera, come comunque direbbe il coprifuoco è fissato dalle 22, quindi è stata una mediazione. Ma viene, dalle 22 viene, dalle 22. Dice. Vi rendete ma conto? Ma non è nulla di ufficiale, non c'è nulla di ufficiale. Allora, fonti certe, per ragazzi. Tre giorni, fonti per certe. Tre giorni stiamo discutendo se inizia il coprifuoco alle 18, alle 21, alle 22. Beh, cambia, ma andate a fare in culo. Hanno rotto i coglioni. Tu sei nella questo regione governo. Della terza fascia, sì, peraltro. Può darsi che andremo tu in lockdown. Sei nella terza può darsi, terza vedremo. Terza fascia. Comunque, terza ragazzi, fascia. Posso dirti una cosa? La cosa incredibile è che è tre giorni che si discute dell'orario di inizio del coprifuoco dalle 22 che per non conta un cazzo. Per cercare di far meno danno possibile alle aziende, no? Ma non dire cazzate, che certo. Non sanno quello che devono fare. In altri paesi hanno deciso e tutti zitti, dai, su, al di là del fatto che uno si trova d'accordo o meno, dai, una buffonata. Questo governo deve andare a casa perché è un governo che balbetta, sta balbettando. Porca puttana. Vabbè, andiamo su un altro personaggio, ragazzi, prima di tornare sul coronavirus. È un signore che... un prete si chiama Leonesi nella diocesi di Macerata. Non c'entra niente col coronavirus, però è una cosa incredibile che è avvenuta. Leonesi ha detto davanti ai suoi fedeli in una omelia, no? In un'omelia si dice così, omelia, Parenzo, si dice omelia, come dite voi? Sì, sì, omelia. Che dite no, voi? Noi no. Della vostra parrocchia, no. Non c'è l'omelia? Non c'è l'omelia. La vostra parrocchia non fa l'omelia. Non facciamo omelie, no. Non fate omelie. Non fate omelie. Facciamo le omelie. Si può, non cioè, fai i rabbini non fanno omelie. Non fanno nessuna omelia. Cioè, i rabbini non fanno non omelie. Fanno, mi fanno dicendo. Quella che in ebraico si chiama Derasha, che è in realtà un commento. Vabbè, troppo è un commento. Ma non fanno l'omelia, non parlano no. I fedeli, non no. Parlano come fai no. I preti. Ma no. Che cazzo di religione no. È? Scusa, no. Non, scusa, non parlano, cioè, non ho capito. Non è che ti vengono a dire cosa devi fare, vengono lì. No, no, non lo fanno. Non fanno l'omelia, rabbini. Non fanno l'omelia. Oh, mamma mia. No, non ma fanno l'omelia, d'accordo. Ma perché è obbligatorio fare l'omelia? Ma no, ho capito. Non è obbligatorio fare l'omelia. C'è un signore. No, lì non c'è nessun signore perché non è bardato. Non fa nessuna omelia. Fa un commento da studioso sul passo che si legge durante la settimana. Non fa l'omelia. Ma non si mette a dire fratelli dovete fare così dovete fare quella no non lo fate adesso questo è un piccolo giudizio morale nei confronti dei preti no una piccola, ma non volevo una dire piccola critica della tua parrocchia mi hai chiesto non si mette lì col ditino alzato a dire tu fa questo no non fa tu fa questo no non lo fa mi dispiace per questo te, no, deluso questo che signore ti devo dire. Che si chiama tu Cuciana fa questo questo non questa va bene l'accusa no. L'accusa dell'ebreo al cattolico ma non è un'accusa allora d'alcun signor modo. È un'altra azienda, è un'altra signor azienda. Signor Leonesi, signor Leonesi dice che è più grave cioè fa un paragone tra aborto e pedofilia, ragazzi, ecco, non ne posso più. Mazzesco. Cioè, secondo voi è più grave l'aborto o la pedofilia, dice questo signore? Ma come? Questo qua è una vergogna, dovrebbe essere preso a pedate nel culo dalla Chiesa, questo qua, a pedate nel culo dalla Chiesa. Perché guardate, fratelli, scusate, ma possiamo dire tutto, qualsiasi cosa, ma cioè l'aborto è il più grande degli scempi. Io, mi verrebbe da dire una cosa, ma dopo scandalizzo a mezzo mondo, ma il problema è che cioè, è più grave l'aborto o un atto di pedofilia? Scusate. Ma scusa un cazzo, ma scusate un cazzo, scusi caro prelato, scusi la parolaccia, scusi la volgarità, ma qui si usa così, si parla come al bar. Caro, cioè, prelato. No, caro prelato, sì, sì, caro prelato. Allora, voglio dire, sentito stamattina Omnibus? No, non l'ho sentito, non mi interessa, non sento, io non vedo Omnibus, posso dirti una cosa? Cosa? Di mattina non vedo Omnibus. Cosa? Scusami, preferisco fare altro. Cosa? No? Scusami, perdonami. Cosa? Se non vedo Omnibus. Cosa? Scusami, Gottardo, tu vedi Omnibus la mattina, ti alzi e sei ansioso di vedere Omnibus. Io, con tutto il rispetto per Omnibus, per carità. Io ti dirò, l'unico programma che guardo sulla 7 è quello di Mirta Merlino, perché ha due gambe che non finiscono più. Ma io sono innamorato di Mirta Merlino. Guarda, ma io spero che ti guarelli, ti porti via tutto. Ma ti guarda, Mirta Merlino ha le più belle gambe della televisione italiana in questo momento. In questo momento, in categoria over 50, in Gavardia, inarrivabile. Ma che ne sai tu, vecchio arnese, che dormi sul letto? Inarrivabile. Che ne sai tu? Mirta Merlino sul lettone del albergo. L'avessi qui sul lettone, Mirta Merlino, sarebbe bellissimo. Sei veramente un maiale. Il problema di fondo è che secondo me siamo così impastati in una determinata mentalità che ci dimentichiamo che ma con questo non è che uno vuole, insomma, vuole dire che l'atto del pedofilia non sia niente, capito? Cioè è una cosa gravissima, qualcosa che meno male. Cioè, lasciamo perdere, insomma, no? Ma che cosa è più grave? Allora ragazzi, ma vi pare adesso, torniamo a parlare di cose serie, possiamo cazzeggiare sulla Merlino, sui rabbini eccetera, ma questo signore qua è un prete, è un prete che si è permesso di dire sostanzialmente con una domanda retorica, quella che si dice una domanda retorica, non voglio scandalizzare nessuno con questo, no, con questo termine, che sostanzialmente l'atto di aborto, all'aborto è... più, no, è un crimine peggiore della pedofilia. Sì, quando da una parte c'è un reato che è quello della pedofilia accertato, un reato nel codice penale, sì, però eccetera, dillo eccetera. Questo, e dillo. Dall'altra c'è l'aborto che è un diritto, radicale, radicali. Noi. Scusi, vogliamo candidare Pannella, vogliamo candidare Leonesi. Pannella avrebbe candidato Leonesi. Candidare Leonesi perché nel suo scandalo radicale nega il diritto all'aborto. Noi abbiamo fatto abortire milioni di donne, tutti che dicevano grazie Marco, e grazie. Perché volete candidare questo? Dunque vogliamo candidare un uomo che esalta in qualche modo la pedofilia paragonandola all'aborto, perché noi radicali siamo per la libertà, la libertà di dire che la pedofilia è peggio dell'aborto. Oh, pezzi di stronzi, un'ora di trasmissione ieri, animali del cazzo. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Oh, pezzi di stronzi, un'ora di trasmissione ieri. Animali del cazzo. Ragazzi, ho sentito il podcast di ieri, ma com'è? La trasmissione dura solo un'ora e 03 minuti. Un'ora e 03 minuti di podcast in una trasmissione che dura quantomeno il doppio. La porca la gran puttana, ma come cazzo lavorate? Crucio, ma fai qualcosa tu! Banda di rincoglioniti, è il podcast che dura un'ora, è il resto della puntata. Ma quanto cazzo di rincoglioniti siete? Ma ripigliatevi, che state male, ripigliatevi. Bonus mobilità, terzo crashdown. Mi hanno buttato fuori per la terza volta e si riparte con 580.000 persone davanti a me. Riandate a fare in culo. Allora, due cose distinte. La prima, ci meritiamo, si meritano, perché io non c'entro un cazzo, però diciamo ci meritiamo tutti gli insulti del mondo per questa minchia di podcast che non funziona. Sembra incredibile, 2020 non funziona una mazza. Mandato in podcast un'ora su un'ora e 40 meglio, di trasmissione. Meglio, ma vaffanculo, va. Meglio un'ora qua, perché tutta è terribile, già un'ora. Seconda è terribile. Cosa, ma ti pare normale che nell'Italia del 2020, ancora una volta Italia del 2020, lo ripeto per la centesima volta, uno si debba mettere al computer per prendere il bonus mobilità? Vabbè, ma che roba sì. È? Come, ma che roba vuoi, è? Anzi. Ma che roba è? Click, a parte che è un paradosso, ottimo, a parte ottimo, che è un paradosso che fanno dei lockdown, magari locali, eccetera, c'è il bonus mobilità. Ma lasciamo con la perdere. Bicicletta, uno come la bicicletta, ma risparmia, ma tu ottimo. Vai là, ti colleghi, ci sono mezzo milione di persone in attesa. Ma che roba bello, è? Bello, vuol ma... dire che funziona il bonus. Ma però, non scusami. Funziona un cazzo! Lo è un teatro tutti. Dell'assurdo, una follia. Vuol dire che funziona, che la gente lo vuole comprare, ma la bicicletta. Tu sei veramente è un mercato. Qualcuno del governo, qualcuno te lo deve dire chiaramente. Ogni tanto sei veramente incredibile, nemmeno le defaillance più incredibili. Appoggi l'Inps, le peggiori cose prodotte L'Inps, da questo appoggio, governo. L'Inps tutt'altro, perché non appoggio proprio niente su. L'Inps. Però Giuseppe, tu non hai capito che è una raffinata strategia del governo. Loro hanno tenuto mezzo milione di persone davanti al computer invece che in giro per la strada. E questo è un inizio di lockdown burocratico. Mamma mia, è incredibile. Sgarbi, scatenato. Perché dobbiamo essere protetti dal Covid? Perché il Covid non porta il cancro, perché il Covid è una malattia da cui si può guarire, perché il Covid non è una malattia mortale. Allora perché siamo così indulgenti col fumo e così duri con il Covid? Una piccola risposta. Ma io dico, perché non prova? Ma perché non prova a prenderla a questo punto? Visto che è un fan del Covid. Guarda che ci ha provato in tutti i modi. Visto che è un fan, adesso sembra di è un fan del Covid. Lo prendesse allora, provato, se dice che non è rischioso. In tutti i modi, io non glielo auguro in alcun modo, perché gli voglio veramente bene a Vittorio De Nostri. Poi voglio si veramente incazza per bene. I musei. Senti quei due musei, si incazza per la chiusura dei musei. I musei statali e poi anche i musei pubblici. È dimostrato che portano il cancro? È dimostrato che per quanti vanno nei musei, per quanti sono andati a vedere Raffaello, per quanti sono andati a vedere Caravaggio, abbiamo i contagi e dai contagi nei morti, non è dimostrato. Quindi non è dimostrato che andare in un museo porta malattia. Forse non hanno abbastanza elementi per dire che nei musei non si trasmette il contagio? Forse non hanno abbastanza elementi per ricordare la legge del 5 novembre 2015 che dice che i musei sono beni essenziali? E allora si ribellino a questo governo di coglioni. Posso dire una cosa a Vittorio, però adesso con tutto il rispetto, magari si incazza quando sente, ma chi se ne frega. In questo momento, sinceramente, di andare nei musei non ce ne frega beh, un cazzo. Questo non è ma vero, come dire. Ristorante, no, no, ma lo posso dire. È un bene essenziale il museo, no. Su questo sei un posso salame. Dirti, no, su questo sei un salame. Questo io, ad esempio, momento, questo weekend sono andato a Siena, sono andato alla mostra di Dalì. Se devo sono scegliere, andato alla mostra di Dalì, ero da mia figlia a Siena questo weekend e ho visto una mostra bellissima di Dalì. Se devo scegliere qualche cosa, non ce ne frega un cazzo. Ma anche nei musei lavorano delle persone. Sì, sai, certo, e ti ristorano lo spirito, quel tuo spirito grezzo che hai. Vai in un bel museo, vedi una bella mostra al Maxi, al Macro, da qualche altra parte e ti passi una grande domenica. Ma quello assolutamente, ma che scherziamo? Devono contrastare un governo di criminali, di delinquenti, di falsari che diffondono notizie falsari. False e tengono aperte le tabaccherie, diffondono il cancro e hanno paura di tenere aperti i musei. Si vergognino, siano maledetti. Lui parla di cancro perché dice diffondono il cancro sul fumo, diciamo, sì. No? Però voglio dire a Vittorio che il fumo non è contagioso, diciamo, c'è questa piccola differenza tra il fumo e il Covid. Marco da Livorno, vai Marco. Dimmi. Ciao, buonasera, ciao dimmi, Parenzo, dimmi. Cruciani. Allora, buonasera, caro ascoltatore. Ciao. Vai, veloce ragazzi, con questi saluti del cazzo, forza. Sì, vabbè, Cruciani, sempre così. Non ha salutato me, comunque. Non ho capito Monica che cazzo voleva ancora, Cioè io non ho ancora capito, a un giorno di distanza quasi, a quasi 24 ore, Monica, quella che ha telefonato ieri, Monica col figlio, non ho capito ancora che cosa voleva, che cazzo aveva da dire. No, ma dopo ci a me dispiace perché veramente chiamano certi squinternati. Marco, dimmi. Cruciani, ti racconto questo episodio che è successo quando ero ragazzino, ho fatto il chirichetto, praticamente in parrocchia. molestato un prete, avanti, ti ha molestato, sì, un prete. Esatto, ma che era una dire? Cosa che si sapeva. Vabbè, ma non mi stai e dicendo dici una cosa dopo 30 anni? Dopo 30 allora, anni lo dici. Scusami, ma ti ha toccato il culo, che ha fatto? Ti ha toccato il pisello, che ha fatto? Ma è... No, ma erano cose che succedevano praticamente. Ma che t'ha fatto sto prete? Che t'ha fatto? Sono attenzioni, sono ma attenzioni che tipo di attenzioni? Che tipo di attenzioni? Che totale, dai. No, sono, ma non sono toccatine con le cose, sai, va in sacrestia. Vabbè, carette, allora, che comunque, vuoi dire? Non è una cosa nuova, dire, cioè, ma sì, perché però la Chiesa adesso sta dicendo sta affrontando? Non è la Chiesa, è un coglione, secondo vabbè, me, uno un coglione, che ha messo sullo stesso piano la pedofilia, che... la pedofilia e l'aborto. E poi, secondo me, ci sono molto cattolici che lo pensano così, eh. Cioè, pensano che l'aborto sia un crimine pazzesco, un assassino, uguale alla pedofilia. Dunque, ci sono molti cattolici che io conosco che la pensano esattamente allo stesso modo. Andrea dalla provincia di Milano. Andrea, provincia di Milano. Cruciani. Ciao. Io non ce la faccio più. Io ho provato a non chiamarvi in questi anni. Che è successo di nuovo? Guarda, io sono un commercialista qua a Milano. Ho uno studio. Dovrei teoricamente far parte di quella che è la maggioranza silenziosa. Cioè, invece non ce la fai più. In realtà io ho una cosa dentro che devo dire a quel cagnolino che è di fianco, il barboncino. Sì, a Gotardo dici no? Sì, il barboncino. fermo. Che gli devi dire? In una frase veloce. Sì. Col massimo rispetto delle istituzioni, della mia professione, tutto. Lorenzo, tu sei proprio una piccola tenera testa di cazzo. Grazie per aver chiamato. Grazie per aver chiamato. Ci sentiamo dopo, Andrea. Fermi tutti. Guaggiù, se vuoi parlare al telefono con Zanzara da fallotto 00240024 oppure se vuoi mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701. Martani che prende la multa, che bello, porca puttana, quanto godo, mamma, come godo, ma quanto cazzo godo, saluti e baci, chiudi la bocca e taci. Parenzo, sei il mio nuovo mito, hai surclassato la squinternata ieri, sei un grande David. Da oggi poster di Parenzo in camera, mitico Parenzo, viva la caccia e viva il Palio di Siena. A voi non vi spetta una lira, a chi vi lavora dentro, quello sì, i lavoratori vanno aiutati, ma voi no, voi dovete morire di fame, perché andate in giro, siete pieni di buffi, pieni di buffi fino alla testa, ma andate in giro con macchina 50.000 euro per far vedere che c'avete i soldi, li mortacci vostri e poi piagnete fame, quanto mi state sul cazzo. Allora, torniamo subito con Andrea dalla provincia di Milano, che ha dato la testa di cazzo a Parenzo. Intanto, buonasera. Paola Saulino, la nostra amata Paola Saulino, cosa ha fatto? Ha detto che vuole passare il lockdown con qualcuno che gli offre 1 milione di euro. Adesso io, con tutto l'amore che voglio a Paola Saulino, non credo. Può darsi che ci sia qualche principe arabo, qualche emiro, ma neanche 100 euro, ma io devo pagare lei per avere una noiosa simile, mi dovrebbe pagare lei, ma non dire cazzate, una noiosona che parla in quel modo, il pistillame, ma ti pare che uno si metta in casa una racchia simile? No, ma come una racchia, ma che cazzo dici, che racchia? Parla in quel modo, idiota, dai, adesso una racchia, adesso non esagerare. Ma racchia, no, la racchia, ma non per, cioè, per comunque la... tu non pagheresti per passare, se avessi un sacco di soldi, per passare un lockdown ma con Paola Saulino. Ma tu sei matto. Cioè, tu se tu avessi matto. 100 milioni di euro, uno lo spenderesti per un lockdown ma insieme neanche, alla Saulino. Ma effettivamente no, un lockdown è troppo. Spenderei per non vederla, per non sentirla, no, per un anno. Effettivamente un lockdown è troppo. Ma una nottata, quanto spenderesti per la Saulino? Una nottata. Ma avessi zero, un sacco niente, di soldi, ma zero, sì, zero, dai, ma su, zero, come zero, no, zero, ma zero. Dai, su. Spenderei per non averla in giro. Visto che la situazione sta comunque fuggendoci di nuovo di mano, per cortesia, con piccole attenzioni, secondo me possiamo risolvere la crisi prima che venga, prima brava, che diventi ancora brava, più brutta. Brava, brava. Io dico che tutto ha un prezzo nella vita e siccome i soldi anche sono una parte della nostra vita che ci consentono di realizzare obiettivi allora? E di essere eventualmente anche più sicuri e sereni, se tutto ha un prezzo io dico sì, visto che non sono impegnata. Allora Andrea, dimmi. No, ciao Giuseppe, ascolta, io volevo rettificare la mia dichiarazione in precedenza, perché a volte anche noi della maggioranza silenziosa ci facciamo prendere e sbagliamo. È solo che in tutto questo tempo sentire parlare Parenzo di agenzie delle entrate, aiuti alle imprese, ecco, io non, poverino, io ho poverino della corno, scusi. No, ma io ho della tenerezza nei tuoi confronti, non è che ho c'è bisogno di avere nessuna tenerezza, sa. Tu sei un adorabile mentecatto che parla di cose che non conosce. Sì, ma che cosa ti riferisci? Scusami, ma io perché devo ascoltare che lui, questo sedicente commercialista? Io ho un commercialista a Milano, bravissimo. Mauro da Mantova, quello è il tuo livello. Ma io non parlo ogni giorno col mio commercialista, che io non faccio il nome semplicemente perché ti surclassa, ti mangia la minestra in testa. Io quando sento parlare e quando questo signore non sa neanche la differenza tra una ritenuta da conto e l'IVA, non sa neanche la differenza che c'è tra la ritenuta da conto e l'IVA, questo qui, ma di che stiamo parlando? No, ragazzi, scusate, che ne sai tu? Taglio il barboncino per piacere. Sì, ma perché tu dici con la testa di cazzo? Devi spiegarlo. Quando ecco, tu hai la testa di cazzo a qualcuno, almeno spiegala. Si no? può, certo, questo certo, può, certo, certo. Figuriamoci, non è che querello per questo. Ogni volta che il barboncino parla di tematiche che sono agenzie di entrate, che sono noiose, fiscali, dice solo inesattezze, dice solo cazzate e prende sempre la parte sdraiato come l'Emilio Fede del PD di questo governo anti-imprese. Sedicente commercialista. Sarà commercialista, non dovrebbe essere commercialista. Ho dei grandi dubbi, non sa la differenza tra una ritenuta da conto e una partita IVA. Allora andiamo avanti. Dunque, ma voglio dire, nel merito, io ho detto semplicemente che questa volta hanno messo in campo l'Agenzia delle Entrate. Che ma finalmente, se non sono ancora arrivati i contributi erogati dal decreto rilancio, dovrebbe, a quanto leggiamo, dovrebbe erogare direttamente i fondi sul conto. Mario, a questo da Roma, commercialista qua non affiderei neppure un'unghia incarnita. Mario da Roma, vai a gestire. Dimmi, Mario. Ma quale commercialista? Allora, volevo fare una domanda, anzi due domande a Parenzo, perché parlando di politica, bisogna parlare con Parenzo, parlando di figa di culo invece dobbiamo parlare con te, Cruciani. Può darsi, no, ma non è un'offesa, amico mio. Cioè, il sesso è scienza, è inutile che fai lo sborone qua. Cioè, il sesso è scienza, per cui è inutile che parli tette, culi. Allora, di che parliamo? Dai, forza, Mario. Ma no, ieri sera, guardando i fatti di Vienna, mi sono chiesto come mai, proprio la vigilia delle elezioni in America, ci può essere, diciamo così, un collegamento... Può essere un punto a favore di Trump, una cosa di questo genere? Punto favore. Oppure può essere un fatto di fanatismo isolato? Ma non lo so, ma vanno a chiedere qua. Ma che ce ne frega? Ma gli elettori noi di Trump non sanno la differenza tra l'Austria e l'Australia. Pensano che in Austria ci siano i canguri. Per cui che cazzo gliene frega a loro, dai. Mario da Roma, mi hai rotto i coglioni. Mario da Roma, vai. Mario da Roma. Buonasera Giuseppe, volevo intervenire su quanto detto da Andrea Lonesi. Ti volevo fare una domanda. No, ma quello, tu pensi specifichiamo, questo qua è un prete, hai detto a uno, è un prete della diocesi di Macerata, che ha detto che molto sostanzialmente l'aborto è quasi peggio della pedofilia. Ma è gravissimo. Per me va cacciato a pedate nel culo. Detto, non l'hai detto. Ma sicuramente posso chiederti se tu pensi sia peggio uno stupro o un femminicidio? Ma cosa è peggio? Perché ma questo, che cosa vuoi che ti... Il femminicidio per me non esiste, innanzitutto. Il femminicidio per me non esiste. L'omicidio di una donna è peggio uno stupro o un omicidio di una donna? Perché? Vuol dire peggio. Certo che è peggio l'omicidio perché porta alla morte. Che vuol dire? Che cazzo vuol dire? Ma se io penso che l'aborto è un omicidio, siamo sullo stesso piano. Ma l'aborto è legale, no? Cosa vuol dire? L'aborto c'entra? È legge. Anche la pena di morte è legale in America. La pena di morte ma cosa è legale, vuol dire? Quindi, ma cosa c'entra? Non rende giusta una cosa. Scusami, amico mio, quel prete là rende giusta una cosa. Ma Parenzo, parte la che pena di morte è giusta. Ma cosa vuol dire? In alcuni stati Parenzo, è giusta, ma infatti non si dice la pena di morte è giusta perché è legale. Certo che non è giusta. Ok, quindi anche l'aborto in assoluto. No, fermo. Ma non puoi paragonare la pena di morte all'aborto. Paragone, come cazzo fai a paragonare la pena di morte all'aborto? Ma perché tu non lo condividi, ma se una persona pensa che l'aborto è un omicidio, Sì, no, ma cosa c'entra? No, perché chi fa l'aborto per fortuna non va in galera, non è mai andato in galera nessuno per l'aborto. Tu sei libero di pensarlo, certo. Di pensare certo. Che l'aborto è un omicidio. Certo che sei libero. Se sono libero di pensare che l'aborto è un omicidio, posso pensare che un atto gravissimo che dice Gesù nel Vangelo, che è meglio per chi lo compie di mettersi una macina al collo e buttarsi in mare e perché morire. Tu lo pensi, perché tu lo pensi, allora evidentemente. È meglio... Perché tu lo pensi, evidentemente. Tu pensi che l'aborto sia un abominio? Certo, ma lo penso che lo pensa anche Papa Francesco. Ma chi se ne frega di Papa Francesco? Me ne frego io di Papa Francesco, non lo riconosco io, è il capo di uno Stato estero per me. Non puoi trattare per me è il capo di uno Stato estero. Per me Papa Francesco è il capo di uno Stato estero, io non riconosco uno che sta con una tunica bianca, che per me non esiste. Ma non ti dico, ma non dico che lo devi accettare, però io sto dicendo un'altra cosa, non puoi dire la Chiesa deve cacciare un prete che non la dottrina della Chiesa. Ma non lo deve cacciare. Guarda, se quel prete là si fosse limitato a dire scusa Mario, se quel prete là si fosse limitato a dire l'aborto è un abominio, non se lo sarebbe filato nessuno, perché la Chiesa pensa che l'aborto sia un abominio e siamo d'accordo, chi se ne frega, fanno le loro battaglie e le perdono puntualmente, arrivederci, grazie. Posso leggere solo una riflessione no, so benissimo che cosa ha detto, linguaggio provocatorio del pensiero e della riflessione, no, è una cazzata, punto e basta. Don Andrea ha messo in guardia da una mentalità oggi imperante che ci fa guardare giustamente al dramma della pedofilia come ad una battaglia che ma è assurdo mettere sullo stesso piano ma un pedofilo e una donna, non è una ci donna mobilita allo stesso modo, ma tu per sei pazzo, ma allora dillo, ma allora dillo che non che la pensi allo stesso modo, dillo che la pensi allo stesso modo, chi commette un atto di pedofilia e chi abortisce, ma sono in carcere chi commette un atto di pedofilia, e ma chi abortisce, dire che e chi abortisce? No, possiamo dire no, lo dici tu, no? Lo dici tu, certo, e c'è che certo lo dici tu, e dillo, certo, dillo, che c'entra paragonare le due cose, allora non che c'entra paragonare le due cose? Che questo c'entra prete non ha fatto un comizio, dai, questo prete su, ha fatto una omelia nel luogo in cui è prevista ciao, l'omelia, Mario, cioè ciao, nella chiesa. Rosicata, guarda. Una rosicata, sto morendo, guarda. La grande rosicata. Però a proposito di preti, caro Parenzo, ti voglio far ascoltare Don Livio Fanzaga. Signor Don Livio Fanzaga. Beh, è il direttore di... No, Radio Maria è una cosa incredibile. Non è direttore, ma lui è uno speaker di Radio Maria. Ma no, in realtà è tanto in forma oggi. Ma è il Gottardo di Radio Maria, praticamente. No, no, ti potrei querelare. No, ti potrei querelare su questa cosa qui. Allora, le perversioni, così, le perversioni sessuali della Silicon Valley. Senti, la Silicon Valley, sì. E le perversioni sessuali. Dai. Ricordo una volta il Corriere ha pubblicato un articolo, insomma ha fatto pubblicarlo qualche anno fa, sulle perversioni sessuali che ci sono nella famosa valle californiana, dove ci sono tutti i progetti, diciamo, di carattere di altissima tecnologia, no? Che si praticano, ma che si praticano? Da queste elite si arriva alle perversioni sessuali di cui bisognerebbe vergognarsi. Cioè il polisesso, il poliamore, ottimo. Il cannibalismo, ma quale cannibalismo? Mangiano la carne di bambini, il satanismo, che praticano. Ma chi lo pratica nella Silicon Valley? Le elite della Silicon Valley che praticano, poi mette insieme poliamore, che è una cosa assolutamente legittima, nobile, cioè fatta consensualmente da persone che scopano con altre persone in contemporanea, con il cannibalismo. Che cazzo c'entra il cannibalismo? Anche tu quando pratichi il sesso orale sei un po' cannibale, sai Cruciani? Ma sì, cannibale con la figa però. Sì, ancora certo. D'Olivio, le lobby vogliono il sesso legale con lobby. I bambini. Senti, le lobby. Mamma mia, ragazzi. E soprattutto il grande sforzo che stanno facendo da queste lobby di rendere legali il sesso con i bambini. Una lobby mondiale contro la quale hanno lottato Trump e Putin stesso. Putin. E che vogliono far sì che il sesso con i bambini possa essere dichiarato legale. Ma chi lo fa? Don Livio, ma sei malato! Ma non nessuno mai? Vuole il sesso legale con i bambini, mamma nessuno, mia. Nessuna mamma lobby internazionale, ma di che parlate? Di cosa parlate? Purtroppo lui fa il tifo per Trump e anch'io faccio il tifo per Trump. Mi devo porre qualche domanda, Parenzo? Sì, mi devo fare qualche domanda, dici? Sì, più mi di devo qualcuna. Fare qualche domanda, più dici? Di qualcuna, più di qualcuna, più di qualcuna. Cani, a tal dighi in dialetto frarese, al dialetto del tuo amico sgarbi, a te imbecil, non capisci un cazzo niente, tipo anche sgarbi, a si du al damar, In forma da lugo se vuol dire Aldamar, passa da cool. Cruciani, fai un piacere all'umanità, iniettati in vena un po' di Covid, almeno ci libereremo di te per un po' di tempo, ti fai recuperare in terapia intensiva, ti fai mettere proni, intubato, così poi quando ti svegli avrai una visione diversa di questo mondo. Dai, facci questa cortesia, dai, sparati il Covid in vena. No, vai a cagare. Comunque ragazzi, il risultato di tutto questo è che mi stanno per tumulare dentro la regione, eh? Cioè il risultato di tutto questo ragionamento, adesso non sappiamo come andrà a finire, ma la cosa più probabile è che mi stanno tumulando in Lombardia, cioè questo è il punto fondamentale. Vietato ed entrare e uscire dalla regione a rischio alto, e forse c'è la Lombardia, non lo so, secondo vari criteri che verranno utilizzati, una follia totale. Cioè consentito il rientro, cioè, al proprio domicilio, residenza naturalmente, vietata la mobilità interna, come esattamente come a marzo-aprile, cioè sospese le attività di ristorazione. In cui l'RT è più alto, sospese le attività di ristorazione, sì, ma anche sta cosa dell'RT, ma è una follia. Devi venire ad Abano, devi venire ad Abano. Tu sei in zona arancione, stai calmo. Il Veneto rimane un posto. Stai calmo, che sei in zona arancione. Sei in zona arancione, stai calmo. Stai calmo, che sei in zona arancione vicino alla rossa. Stai calmo. Leonardo da Macerata, vai, Leonardo da Macerata. Allarme in Svezia, intanto è la tua Svezia, la tua Svezia, quella che avete detto, sì, modello svedese, situazione molto grave, nonostante in Svezia. Nonostante aumenti di morti, non fanno situazione lockdown, ma non hanno deciso di fare lockdown. Siete, non fanno lockdown, ganassa. Non chiudono nessuno intanto. Siete dei Leonardo, ganassa, sì, va bene, vedremo come va a finire. Dovete chiedere scusa, ma di che cosa? Di aver detto fregnacce ma da settembre, Leonardo da Macerata, da aprile, da maggio in poi, fregnacce da maggio, dovete dire ho sbagliato. Leonardo da Macerata, vai. Fare riascoltare le trasmissioni di quello che avete detto. Dimmi. Propagandato, tu, ubriatore. Sì, Leonardo, dimmi. Vai, Leonardo, dimmi. Buonasera. Io ieri ero presente durante l'omelia diretta. Il discorso, sì, che tra l'altro non è stato detto che questa omelia è stata fatta durante un funerale. Comunque sì, ma non ce ne frega un cazzo dell'omelia, né del fatto che sia un'omelia, non ce ne può fregare di meno, anzi no, ce ne potrebbe fregare, perché comunque l'omelia è una cosa addirittura più grave se uno ha detto questa cosa durante l'omelia. Non ma è il che funerale è di chi? Era una persona morta per Covid, per caso? No, assolutamente. Vabbè, allora eri presente, dunque? Sì, ero presente, e quello che ho pensato in quell'istante è stato, cioè, per quale cazzo di motivo non c'è stato mai nella storia un folle che abbia invaso lo Stato del Vaticano e lo abbia raso al suolo? Cioè, non ho capito. La mia domanda è questa. Cioè, tu prevedi, eri lì presente all'omelia, cioè eri in chiesa, vorresti radere al suolo il Vaticano? Non ho capito. Sì, la chiesa, il Vaticano. Ma non ho capito, allora perché cazzo sei andato a fare a sentire la messa all'omelia del prete? Scusami. Io sono andato al funerale. Ah, sarà al funerale, sì, se andava al funerale c'era l'omelia del prete, a te non te ne fregava un cazzo del prete durante il funerale? No, assolutamente no, però ho sentito questa cosa qui, tra l'altro ho anche una figlia di 11 mesi, quindi... Vabbè, la figlia di 11 mesi non ha capito un cazzo, diciamo, ah, tu dici per l'aborto, dici. Però scusami un attimo. Per la pedofilia. Scusami un attimo, togli viva voce all'auricolare, perché, amico mio... No, cioè... non sono in viva voce. Vabbè, allora? Con l'auricolare. Allora? E quindi, cioè, io lo ritengo una cosa sconvolgente quella che è stata detta da questo presunto prete. A me lo dici che è sconvolgente? Cioè, questo ha messo sullo stesso piano la pedofilia e l'aborto. Sì, ma perché non gliel'hai detto in faccia? Ma non l'hai detto. Perché non gliel'hai detto in faccia quando eri lì? Quello che non riesco nemmeno a capire è perché quale cazzo di motivo ai preti piacciono i bambini. Perché, ma perché non ti sei ribellato durante l'omelia? Perché non hai alzato il dito e hai detto: scusi signor prete, avrei una cosa da dire? Che tra l'altro questo qua è il vicario del vescovo. Perché tu farai battezzare tua figlia di 11 mesi? Io non vorrei assolutamente farla battezzare. C'è una battaglia con la mia compagna. E alla fine vincerà lei, perché altrimenti ti fa lo sciopero. Sicuramente, ma cioè, questo prete merita. Allora, vedi, sei un pusillamine. Cioè, hai pienamente ragione. Allora, perché chiami la zanzara e non hai contestato il prete durante la messa? Non è che lo puoi perché mettere, la tua compagna ti faceva un culo lì così. Al funerale, che doveva fare? Dai, su, cioè, non è che durante un funerale non mi sembrava nemmeno. Sarebbe stato un pezzo di surrealtà. Ma ho capito, ma che doveva fare? Doveva andare al funerale e sputare in faccia al prete? Non l'ho capito, dai, forza. Beh, Leonardo, avanti tutta, ciao, Alessandro da Grosseto, vai Alessandro, dimmi. grande Giuseppe. Comunque questo qua è il vicario del vescovo, cioè è come se fosse il vice del vescovo, il vicario del vescovo, questo due. Signore qua, il numero il due del vescovo. Sostituto procuratore praticamente. Cioè, sì, praticamente un numero due della chiesa di Macerata. Lì, sì, la pedofilia è grave, ma l'aborto è il più grave degli scempi, io non ci posso credere. Alessandro da Grosseto. Non hai mi stanno chiudendo in Lombardia, non ci posso credere per questa cosa. Mi stanno chiudendo praticamente in Lombardia, il governo distruggendo l'economia della Lombardia. Ma nessuno ha coraggio di farlo perché anche il tuo presidente di regione Alessandro da Grosseto, sì, ma non c'è dubbio. Perché Alessandro. Bisogna chiudere tutta Italia e non soltanto la Lombardia, capito la follia? No, bisogna non è una follia. Italia. Cruciani, vieni Alessandro, dimmi, Alessandro. Beh, si chiude dove è necessario, non si blocca un paese intero. Come se bloccare la Lombardia non fosse bloccare tutto il paese, dai, su. Lo Alessandro, sappiamo dimmi. Che siete la parte produttiva del paese, ci ho vissuto per 10 anni, è ovvio. Dimmi, ma... Alessandro, dimmi. Ah, no, prima cosa è che domenica mattina sono andato in centro di Grosseto. Vedremo le fughe che ci saranno in questi giorni per andare via dalla Lombardia, le grandi molto fughe. Male, molto Alessandro, male, dimmi. Molto male, come a Parigi, come è successo a Parigi. Ti dicevo, domenica mattina sono andato con un mio amico in centro di Grosseto, in libreria, perché sto monitorando il tuo libro. Vabbè, allora? Sta andando alla grande, ti dico solamente... Vabbè, andiamo avanti, dai, tu porti sfiga, amico mio, mi tocca i coglioni. A pelle mi tocco. A pelle. Bellissimo, la Bibbia ce n'erano 10.000, tuo libri 2. Vabbè, la Bibbia, grazie a cazzo, cioè, la Bibbia non è stato prodotto nei giorni scorsi. No, dai, sto scherzando. Comunque, sto andando alla grande. Vabbè, e dai, Alessandro, forza, dai. Top. Ti volevo dire, qui la Chiesa sta un attimo perdendo il lume. Allora, ora quella che hai detto te, questo prete ha perso la testa, completamente folle. Seconda cosa, invece di preoccuparsi di dire queste minchiate, compreso il Papa che va a dire... Un po' di anticlericalismo vero, come i veri radicali, qui resistiamo con l'anticlericalismo vero, in questo posto. Il Papa che invita gli italiani a pagare le tasse, allora innanzitutto uno paghi le tasse lui con l'IMU che dovrebbe pagare in tutta Italia, con tutte le proprietà che hanno e non hanno mai pagato un cazzo. Uno. Due... Hai mai sentito lui fare discorsi su quello che sta succedendo con la Cina comunista, con il Tibet, con quello che sta succedendo in Francia? Vabbè, con già mai annoiato. Massimo da Genova, dai Massimo. Tibet, aspetta, questo. Proviamo a chiamare il prete però, che c'è il cellulare, un attimo solo, vai. Proviamo a chiamare. Don Andrea? Sì. Buonasera, sono Cruciani, come sta? Sì, bene, buongiorno. Senta, ma io vorrei fare una riflessione su quello che ha detto lei, una riflessione seria però, perché la stanno massacrando, lei lo sa che la stanno massacrando, no? Sì, sì, poco no. Allora, io dico una cosa, andiamo alla conclusione della sua domanda, che lei ha posto una domanda importante, cioè la frase... Sì, signor Cruciani, per pazienza, non è che non voglio parlare con lei, anzi mi farebbe piacere anche parlare con lei, però ci siamo dati siccome ci stanno... telefonando da tutti i ma quello è normale Don Andrea, è normale. Sì, cioè. Allora ci siamo dati con la diocesi praticamente di mandare tutto al, come si chiama qua, a chi? All'ufficio stampa della diocesi. Sì, no, però la sua voce, sì, ma questo l'ho capito, la sua voce però è importante, cioè lei alla domanda finale, cioè cosa è più grave tra un aborto e un atto di pedofilia? Era una provocazione, era per dire che sono tutte e due molto gravi. Ho capito, però una è una scelta, l'aborto, l'altra è una violenza, capisce un po' sfuggita di mano. Don Andrea, capisce la differenza tra le due cose? Qual è? Sì, un po' sfuggita. No, ma ho capito, ma lei mi venga dietro, perché è importante un suo chiarimento su questo. No, un suo chiarimento su questo, è importante, è fondamentale, perché lei... Sarebbe una cosa buona se magari parla con il dottor Piero Chinellato, si chiama, il portavoce della diocesi. Sì, ma il portavoce, noi non parliamo col portavoce, non possiamo parlare con il portavoce. Abbiate pazienza, no, ma lei... Scusi, come fa a mettere sullo stesso piano la pedofilia e l'aborto? Don Andrea, come fa a mettere sullo stesso punto? Grazie all'interessamento. No, ma come fa a mettere sullo stesso piano? Come fa? Richiamatemelo, va. Sono tutte e due molto gravi, l'ha ribadito, sono tutte e due molto gravi, ha detto, la pedofilia e l'aborto, qualcosa ha detto. Poi il portavoce della diocesi, ma che cazzo è il portavoce? Portavoce di Conte, cioè il portavoce dei ministri, non il portavoce, uno c'è la diocesi, c'è il portavoce, ma parlate voi, siete preti, dovete parlare con la gente, cazzo, c'è il portavoce. adesso non risponde più. Incredibile. Incredibile, incredibile. I preti parlano con la gente, normalmente dovrebbero parlare con la gente, il portavoce della diocesi. Voi avete mai sentito il portavoce della diocesi, il portavoce di una chiesa? No. Cioè, Gottardo, il portavoce, ma come cazzo è il portavoce? No. Ma porca puttana. Stampa, però il vescovo dai, parla di Gabriele da Cagliari, Gabriele da Cagliari. Ma quale ufficio stampa? Ma di che dai, su, questi devono parlare stampa, con la gente, c'hanno l'ufficio stampa. Anime, dai. Ma che ufficio stampa? Ma Gabriele, dai, forza, Gabriele. Manco il Papa dovrebbe avere l'ufficio stampa. L'ufficio stampa del Vaticano va tutto soppresso, ma che è l'ufficio stampa? Quelli parlano direttamente. Sai che no? A me piacerebbe moltissimo fare il capo ufficio stampa del Vaticano. Gabriele da Cagliari, sì, tu ebreo, capo ufficio stampa del Vaticano. Bellissimo, meraviglioso. Sarebbe. Gabriele da Cagliari, meraviglioso, dimmi, sarebbe. Dimmi. Pronto, salve, Crociani, ciao. Dimmi, Gabriele. Allora, dimmi. Sono Gabriele, 21 anni. Allora, innanzitutto, vabbè, volevo parlarti. Non so se conoscevi o sapevi dell'esistenza della Non-Nat November. Della Non-Nat certo, November? Come no? Sì. Come no? Certo. November. Il mese di astinenza. Ciao, dottor. Salve anche a Parenzo. Vabbè, Gabriele, dai, forza, che vuoi dire? Allora, salve, cosa non a novembre sarebbe appunto una sorta di sfida durante la quale per tutto il mese di novembre, il maschio, la persona maschio, non deve eiaculare. Mm, e questa è una sfida, non è una non c'è nessuna sfida, ma chi la fa questa sfida? Chi la fa? È impossibile. Aspetta, è una sorta di solidarietà del web. Io ti parlo perché quale la solidarietà del web di chi? No, quali? È per una che sfida, è una sfida che c'è, che si ma fa non esiste nessuno. Cioè, ho capito, uno cioè, fa la sfida non eiaculare, a che pro? Esatto, ti, per un mese, ti esplodono le palle, ma figurati. Senti l'altro. Adesso per un mese possono anche non esploderti le palle, non è quel punto. No, ti esplodono, ma lascia stare, hai delle polluzioni notturne, solo che non te ne accorgi. Dai. Perché ci sono anche degli effetti collaterali. Ti spiego. Ci sono degli effetti collaterali. Tu hai la radio accesa dietro, innanzitutto, amico mio, Gabriele. No. C'hai la radio accesa dietro. Vabbè, c'hai il ritorno della radio dietro. Ma non tu, so Gabriele, che cazzo sei stato per un mese senza eiaculare, allora, dopo i 14 anni. No, un mese non ho resistito, però 21 giorni sì, 3 settimane sì. Vabbè, ma è normale, ragazzi, 3 settimane senza eiaculare si può fare pure, cioè non è che si può fare. Te ne accorgi, non te ne accorgi, è impossibile. Ma che cazzo dici? Tu non sei stato mai 3 settimane senza eiaculare, non ho capito. Ma no, ma è logico che tu non conosci il mito di Endimione, allora, non hai studiato l'epica, non sai, non conosci il mito di Endimione, cioè la polluzione notturna. Ma io non ho mai avuto polluzione notturna, sei tu che hai polluzione notturna, non ho mai avuto polluzione notturna. Sai, no. Tu non sai, tu hai le lenzuola talmente sporche che quando hai le polluzioni notturne. Sei tu che hai le polluzioni notturne? Non ho mai avuto polluzioni notturne. Ma sì, ma chiunque ha avuto una polluzione notturna? Tu hai avuto polluzione notturna? Lo temevo che mi tirassi in ballo, era così bello sentire dialogare voi. Io me ne stavo zitto e arriva la domanda. No, a me non, io non intervengo in queste domande. Ciao, Gabriele, ciao. Dai, la polluzione ce l'hai avuta anche tu. Chiamerei l'amico Bacco, il negazionista Bacco, il medico Bacco. Grande negazionista. Arrabbiare, vediamo non... di fronte a questi nuovi provvedimenti del governo come li prende il negazionista Bacco. E come vuoi che li prenda? Vai. Oh, eccoci, Bacco. Grande Cruciani. Beh, ciao, amico caro mio, grande paladino della libertà, signor Bacco. Grande. Signor sempre Bacco, sempre più paladino. A differenza delle persone che tu di solito ospiti, io voglio capire una cosa. Praticamente ci sarà non si capisce bene quello che ci sarà, naturalmente. Lockdown, non lockdown. Vabbè, l'ennesima pagliacciata. Cioè, tu resti convinto che sia tutta una pagliacciata? Ma tutta una pagliacciata, ma per carità di Dio. Cioè, il oggi... virus è strafinito. Ah, come è strafinito? Scusi? E possiamo già. Come dice? Guarda, l'unico problema sentire, che bisogna dire, guarda, è solamente questo. Dimmi. Le persone a casa si devono curare. Sì. Cioè, se si infettano vanno curate, perché questo purtroppo è una cosa che sta capitando. Ma bravo. Che si infettano, il divino non Telma. Si curano. Divino Telma. Sei il divino Telma, sei della medicina. Il divino Renzo, Telma della medicina. Divi- to, le corna. To, to, Peccato che non si è venuto. Divino Telma della medicina, non mi farei curare neppure una mezza unghia incarnita da un bacco come te. Testa di bacco. Testa di bacco. Certo, e ti credo, e ti credo. Ma scusami un attimo, io voglio capire. Dottoressa Capo, la veterinaria. Ai grandi medici, non ai fanfaroni. Che lettera vergognosa che ha fatto. Fanfarone. Ma scusami, fanfarone. Scusami una cosa, bacco, ma 353 morti di oggi per fare un esempio, tu che cosa li attribuisci? Ma quali 353 morti? Ma andate a vedere, ma è sempre la solita storia, la solita fuffa. Cioè? Sono persone che se già stavano malissimo, già ammalate di loro. Finiamola, questo è un medico. Ma siamo veramente arrivati. Ma sarebbe un medico. Ora, per piacere. Cioè tu quando guarda, noi ci siamo fatti il giro, sì. Adesso c'è questo medico che fa la battuta, venite a vedere, io ci voglio andare, però voglio vedere tutte le cartelle cliniche. Sì. Lorenzo, io sto ancora aspettando la tua cartella clinica. Ma tu sei il medico dei morti. Tu sei al massimo, fai le anatomie tu al massimo. Anatomie fai sui cadaveri, quello sei, non curi i vivi tu, curi i morti. Sto aspettando la tua cartella. Però tu curi i morti tu, i morti. Tu dici, l'hai detto anche in quel comizio là in piazza, che il virus non ha ucciso nessuno. Tu dici il virus nessuno. Ma... da solo, tranne soggetti che avevano già delle malattie particolari o soggetti particolarmente anziani. Questo è pazzo. Perché non ha la capacità di uccidere. Vaglielo a dire Bergamaschi. Non ha la capacità di uccidere. Vaglielo a dire Bergamaschi. Vaglielo a dire Bergamaschi. Bergamaschi. Bergamaschi si dovrebbero vergognare che si sono fatti tutti quei vaccini. Hanno fatto quella scelta. Ma adesso sono morti, si devono pure vergognare. Ma io mi auguro che ti facciano una class action tutti i parenti delle vittime. Mortaccione che non sei altro. Mortaccione che non sei altro. Parliamo, mortaccione parente, che non sei altro. Io mi auguro che i parenti dei bergamaschi morti ti facciano una class action e ti portino via tutto quel poco che guarda, hai. Parente, tutto quel 18, poco che hai. I tre dell'Ave Maria che parlavano di 1000 morti al giorno. Noi ancora lo dobbiamo incontrare un virus che uccide 1000 morti al giorno. Mamma mia, vergognati di insultare un virus, i morti. 1000 morti al giorno si ferma sempre a 1000. Dopo due ore i carri militari, ma è tutta una sceneggiata. Ma la sceneggiata organizzata da chi? La sceneggiata con i carri. Cioè qualcuno ha organizzato la sceneggiata con i camion militari. Senti, è risaputo che l'indicazione in questo momento è rendere la cosa più grave, perché secondo loro la gente, se no, non si mette le mascherine. E non fa... La verità è che non ci vogliono far riunire. Ma non vedi che cioè, dobbiamo fare? Vogliono vendere le mascherine case, e vendere parlare. Il vaccino. Tu dici vendere le mascherine, vendere il vaccino e non far riunire le persone. Ma questo Elkan, insomma, per Elkan è stato un bel guadagno queste mascherine. Cioè, tu dici e mascherine, dire, non vaccini. Non dobbiamo parlare. Non possiamo fare le riunioni in casa, non possiamo fare le riunioni in piazza. Noi non dobbiamo parlare, perché se parliamo li smascheriamo alla grandissima. Ma guarda, l'unica sai che sei un poveretto, perché sei talmente, siccome sei talmente un coglione che nessuno ti considera, ma siccome te nessuno ti considera, hai questo revanchismo nei confronti dei medici veri, capito? Per cui tu devi pagare la capo per parlare in televisione. Dammi capito? Vabbè, ognuno decide, i privati decidono che cosa guarda, fare. Guarda, io ti do una certezza, nelle mie trasmissioni televisive non parlerai mai. Ti do una certezza, nelle mie trasmissioni televisive non parlerai mai. Da chi? Da chi? Tu sei un prezzolato, da chi? Tu puoi tenere solo Crisanti, da chi? Galli. Da chi vaccini, prezzolato? Vaccini, da chi? E chi mi avrebbe pagato? E chi? E chi mi avrebbe pagato? Però scusami. Tutti quelli che devono fare i vaccini. E chi mi avrebbe pagato? Tu inizi le tue trasmissioni. E chi mi avrebbe? Ma certo, lo vaccini. Continuo a dire, fate tu. Ma io tu l'ho hai fatto detto su tu di me il vaccino. Ma tu hai detto che l'ho fatto fare alla mia famiglia. Da chi sarei prezzolato? Brutto imbecille! Fuori nomi! Fuori nomi! Fuori nomi! Cane rognoso! Fuori nomi! Beh, no, questo è grave, questo fuori non si nomi, cane rognoso, fuori allora nomi, fuori medico, nomi, Parento. Fuori Parento, nomi, medico, chi mi avrebbe pagato, cane medico, rognoso, cane medico, rognoso, medico, chi mi avrebbe pagato, strabacco dei miei coglioni, chi mi avrebbe pagato, strabacco, strabacco dei miei coglioni, chi mi avrebbe pagato, nomi, nomi, nomi, nomi, nomi, nomi, nomi, ma scusa, come fai a dire che i bergamaschi si dovrebbero vergognare perché esatto. Hanno fatto i vaccini? Non ho capito i bergamaschi che no fatto? Si dovrebbero vergognare per tutta la sceneggiata che è stata fatta. Ma secondo te, se anche fosse stato pazzesco, vero, e non è vero, ignobile, ma secondo te cane è normale ignobile. Far vedere ad una nazione in pieno terrorismo psicologico ignobile. I carri dell'esercito che portano via le bare ignobile, ma secondo te è normale ignobile? E i bambini, guarda, ma tu pensa ai ignobile Parenzo. Ignobile Parenzo, pensa a chi ignobile. L'altro giorno che abbiamo organizzato Bari, Ignobile. Persone che sono messe fate i vaccini, io li ho fatti. Fatti fare a tutta la mia famiglia, a tutti i miei figli, vaccino antinfluenzale. Fatelo. Io non ci credo che l'hai fatto. Ma certo. Comunque non ho capito i suicidi, Bacco, perché tu dici che in questo momento uccide più l'economia piuttosto che il virus. Ma non lo vedi, ma guardatevi intorno. Il giorno che abbiamo organizzato la manifestazione a Bari, il pomeriggio, due ragazzi giovani si sono messi una corda intorno al collo. Cioè, tu ma stai perché i dati dei suicidi non li dicono? E questi parlano di vaccini, parlano di virus. Ma scusa un attimo, il virus quando c'è sicura. Ma scusami un attimo, quando uno dice oggi il 25% dei tamponi positivi in Piemonte, il 23% in Valle d'Aosta, il 21%. Ma tutte cazzate. Come ma guarda, il mondo decide come muoversi sul mezzo più inaffidabile che esiste, il tampone. Perché non vanno i test serologici che hanno il 97% di affidabilità? Perché i tamponi perché costano di più. Costano di più i tamponi. I tamponi costano 61 euro chiaramente e hanno un'affidabilità del 27%. Invece i test serologici costano 13 euro, 15 euro via e hanno un'affidabilità del 97%. Scusa, allora, Parenzo, come lo consideri? Come lo consideri il Bacco? Un poveretto che verrà querelato da me perché mi ha detto che prende i soldi dall'azienda di vaccino. E dai Bergamaschi perché li ha offesi. Ha offeso i morti dei Bergamaschi, li mortacci tua. Ma non fatevi il vaccino antinfluenzale quest'anno, non ve lo fate, mi raccomando. Perché non ho capito che porta la morte, che porta perché il Covid. Porta la doppia stimolazione al sistema immunitario. Io non sono un Novax, ma quest'anno non si fa. Quest'anno, tra l'altro, l'influenza, non so se avete notato, non ce l'abbiamo ancora. Perché questo virus ci ha immunizzato. Neanche questo dice Parenzo. Cioè, il virus, non ho capito, perché allora il virus è positivo alla fine, non ho capito. Il virus, questo virus ha immunizzato perché è un coronavirus, non vedi che non abbiamo più l'influenza. I tuoi amici delle case farmaceutiche, come te le spiegano? Quali sarebbero, scusi? Quali sarebbero? I tuoi amici, quelli con cui apri le trasmissioni, fatevi i vaccini. Certo, fatti i vaccini, io l'ho fatto ai miei figli, ti porto il certificato del mio vaccino. Certo. Parenzo, il 40% di vendita di farmaci in più. Come lo spieghi, Parenzo? Sai chi si sta arricchendo? Sono le lobby farmaceutiche. Comunque Bacco è una delle poche voci eretiche, lo possiamo dire, eretiche, Parenzo. No, coglione, no, eretiche. Bacco sostiene viventi. Che non bisogna fare un cazzo, Bacco sostanzialmente. È un pirla, cioè, diciamo. L'infezione bisogna curarsi, c'è un protocollo. Scusami, ma se fanno il lockdown dove abiti tu, eccetera, tu che fai? Te ne fotti totalmente? Io esco, non me ne frega un cazzo, stavolta mi possono portare pure in galera, sono pronto, non è un problema. Ciao. Mi venderi davvero in galera. Ciao. Lucio, devo pagare l'affitto oggi. Qual è la soluzione? Parenzo, OnlyFans o far diventare la mia tipa una webcam girl? Aiutatemi. Ma scusa, ma uno nasce, ci siamo, per gioire, per godere, per celebrare i propri sensi, ci siamo. E sti coglioni che cazzo fanno? Cioè, a 20 anni si vanno a sparare addosso alla gente, eccetera. Ma spara con l'uccello, spara, coglione di merda. Io questo veramente. Non è per fare il solito qualunquismo, la retorica, eccetera. Ma cazzo, ma a 20 anni goditi l'esistenza, goditi la tua fisicità, celebra i tuoi sensi, cazzo. Grande Maurizio da Genova. Amante del pissing che giustamente dice ai terroristi scopate di più, probabilmente questi non scopano nemmeno, scopate di più, non fate gli attentati, più prostituzione, regalate prostitute a questi qua, cioè a questi jihadisti o presunti tali, a questa gente devota all'ISIS. Bisognerebbe regalare prostitute, regalare però sesso. Dimmi. L'attentato di Vienna è successo nel giorno in cui hanno chiuso il webcam, sappilo. Cioè, sarà una coincidenza, però. Direi proprio di sì, direi esattamente di sì. Clara da Pordenone, ragazzi. Ciao ragazzi, io volevo dire una cosa molto semplice. Cioè, che secondo me è assurdo che ci siano tanti uomini che parlano di aborto. Per fortuna l'aborto riguarda anche gli uomini, amica mia, perché qualcuno mette incinta una donna, lo sai, sì. Cioè, fino a prova contraria, qualcuno mette incinta una donna. Dunque riguardano anche gli uomini, per cui punto e basta. Certo, cioè, l'ultima parola deve avere la donna, ovviamente. Dunque? Però parlo da persona che non... Per quanto mi riguarda, da donna, io non voglio avere dei bambini. Ma se non vuoi avere dei bambini, sono cazzi tuoi. Cioè, quanti anni hai? Quanti anni hai, scusa? Assolutamente. 32. A 32 anni tu hai già deciso che non vuoi bambini. A voglia te, amica mia. A voglia te. Hai voglia cambiare idea? Hai voglia cambiare idea? Aspetta un attimo, aspetta un secondo, Clara, aspetta. Pronto? Pronto? Sì, chi parla? Sì, c'è Carlo Vescovo. Guardi che ha sbagliato il numero. Non è il vescovo? No, non no è ma il non vescovo. Scherzi, questo è il vescovo. Ma è il numero del vescovo? Che cazzo dici? No, richiami questo. Parla richiami. Così la perpetua del vescovo non pensa che parli così. Dicevi Clara, scusa, dicevi Clara? Ma la perpetua no, ti mandò a cagare. Per quanto mi riguarda, in entrambi i casi, che sia un aborto o che sia uno stupro nei confronti di chiunque, che sia un bambino. Senti, o Clara, che sia però, una non donna, fare, non mi è comunque un è comunque un un omicidio, perché una persona ma quando cosa la stupri, è un omicidio? Cosa è un omicidio? Scusa, se certo, tu fai un atto di violenza nei confronti di un, di certo, un bambino, certo. È comunque un omicidio, perché quella persona dentro la ammazzi. Ma certo, ma la chi dice il contrario? Che... Chi dice no, il contrario? Ma dicendo, e allora, sei d'accordo con me, che cazzo chiamo a fare se sei d'accordo con me? Se sei d'accordo con me non mi chiami, altrimenti non mi diverto, no? Cioè, sei d'accordo con me dicendo che quel prete è un deficiente, un coglione, direbbe Parenzo una testa di non so non che esageriamo. Cosa, un imbecille. È scivolato su una frase infelice, dai. Su una domanda retorica del cazzo molto poteva anche fare Edoardo, Edoardo però, da Taranto però... Clara, ma è già annoiato. Edoardo da Taranto, dai. Pronto? No, Gianluca da Venezia, dai. Gianluca da Venezia. Pronto? Dimmi. Sì, sì, niente, praticamente l'ingegner Bacco mi ricorda un po' l'ingegner Negri. Può essere, ti assomiglia un po' a Negri. Anche sì, l'ingegner siamo... Cane. Anche l'ingegner Cane, quello di mille mila. Aspetta. Chi stai chiamando? Aspetta. Se non risponde nessuno, chiudiamo tutto. Dai. Chiudiamo ma la chi baracca. Che chiami? Chiudiamo, chiudiamo la baracca. Arrivederci, è finita la trasmissione. Vodafone servizio di segreteria. Ma chi stava chiamando? Calma, calma. Gianluca, no. Gianluca, vai, Gianluca, dimmi. Niente, praticamente il governo vuole fare tutte queste tutele, no? Della salute, ci tiene, eccetera. Però ti rende le sigarette che ti fanno morire. Sì, ma questo è quello che ha detto Sgarbi, dai, Gianluca. Esatto, forza. esatto. E allora? Che cazzo vuoi? Non ho capito che cosa vuoi. Ma... tutti gli italiani che dicono no, il virus fa paura, tutte queste cose qua, no? A loro però va bene tutte queste altre ma cose che diciamo... Gianluca, intendiamoci bene, allora, io non ho capito bene il tuo intervento, già abbiamo avuto a che fare ieri con una signora che si chiama Monica, di cui non ho capito un cazzo, richiamiamola un attimo. Allora Gianluca, che cosa vuoi? Cosa desideri da questa emissione radiofonica? Ecco. Vuoi dire qualche cosa? Vuoi attaccare Sgarbi? Non lo vuoi attaccare? Vuoi no, dire no, che no, ha ragione? Voglio appoggiare Sgarbi, voglio benissimo, appoggiare. Appoggi Sgarbi perché dice lo Stato vende le sigarette e dunque fa morire la gente di cancro, certo, e poi... ma che non ci vengono via cagate. Sì, vabbè, d'accordo, e allora no, poi vuoi aggiungere qualche cosa? Quanti minuti sei stato in attesa per dire questa mamma puttanata mia, da Venezia? Ma mamma mia, non si capisce, non si capisce. Ciao Gianluca, ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto? Pronto? Monica? Sì? Sì, io non ho capito ancora che cazzo volevi ieri, sono cruciale, scusa. Esatto. Vaffanculo, no, cosa volevi? Cosa volevi ieri? Non ho capito. Richiama, richiama. Però io per fortuna sono esente questa volta. Che ha detto? Che ha detto? Monica, tu, te Gottardo. Te Gottardo. Sì, e vabbè. Esente. Richiama, per una richiama volta, esente. Potrebbe essere l'inizio di un grande amore, eh? Sì, sì, quasi certo. Cioè, sembra un po' la Loris. Se volete, ci provo io. Se volete, vai, provoci. Se volete, provoci. Con voi ce l'ho, magari con me. Ti posso no, dare sono Parenzo, sono Parenzo, ha ragione. Ancora, ancora, ancora. Che mito assoluto. Sono Parenzo, sono Parenzo, non sono quei due, ha ragione lei. Ma non no, non ma, mi chiamare, no, ma io non volevo chiamare, io sono d'accordo. Mio numero, non mi chiamare, non mi ma io sono tutto. D'accordo con lei, è una trasmissione da chiudere questa. Allora, oh, Monica. Monica, dai. Monica, ma non da dove esci così. Fuori? Ma da dove esci non fuori? Fare così. Ma da quale antro esci fuori? Da quale caverna esci fuori? Ma sei perfetta. Ti amo, ti adoro. Oh. Il marito, che fine avrà fatto? Richiama ancora, fino all'infinito, fino all'infinito, Monica. Fino all'infinito. Il povero marito di costei, perché il ragazzino di 19 anni abbiamo capito. Ma il marito che sarà scappato. Aspetta. Tic tic, ma che tic tic tic. Oh, squillo chiaro. Che è muto? Non ho capito, che è successo? No. Ha staccato tutto. Maria Rosa da Vicenza, vai. Maria staccato Rosa tutto. Da Vicenza, ha staccato tutto. Maria Rosa da Vicenza. Bravissimo. Dimmi Maria Rosa, dimmi. Allora dimmi. Ti faccio una domandina. Sì. Se tua madre avesse abortito saresti stato contento? Se mia moglie avesse abortito. Se tua madre avesse abortito, sarei stato contento. Senti che battaglia con questa, eh? Allora, sarei stato contento. Maria Rosa, non me ne. No, perché non è. Non essendo consapevole di questa cosa qua, non potevo. Imbecille. Ma è pazza questa, è malata di mente questa qua. Cioè, come cazzo faccio a essere. Come faccio a essere incazzato? Scusami, se non sono nato, come faccio a essere incazzato? Non posso essere incazzato. Dunque, non essendo nato, se mia madre avesse abortito non sarei nato, dunque non mi sarei reso conto dell'aborto di mia madre. Che cazzo stai dicendo, Maria Rosa? Oh, richiamate un po' questa cretina, dai. Luigi da Latina, dai. Luigi, tutti e tre. Dimmi. Allora, io ho chiamato perché avevo sentito l'intervento di prima quando parlavano del Covid e Parenzo si è arrabbiato per quelli di Bergamo, no? Perché il signore è un po' offeso. Io ti dico la mia esperienza. Io ho 46 anni, sono una persona fisicamente, diciamo, a posto, faccio gli esami ogni anno anche per lavoro. Sì. Io e mia moglie abbiamo preso il Covid. Sì. Mia moglie l'ha preso in farmacia. E non vi è venuto un cazzo? No, assolutamente no. Abbiamo avuto i sintomi dall'inizio. Io mi sono reso conto dopo una settimana di averlo, perché inizialmente avevo solo stanchezza, astenia, e poi è cominciata un po' di febbre a partire da 37 per arrivare fino a 38. Fortunato. Non è stato fortunato, la maggioranza delle persone stanno così. Non è stato fortunato. La maggior parte delle persone che prendono il Covid stanno esattamente come Luigi da Latina. Perché devi negare la realtà? La maggior parte delle persone delle che prendono il Covid stanno come lui. Ma come dico? Ibrahimovic. Aspetta, chi è? Chi c'è? Maria Rosa, pronto? Sì, pronta. Allora, spiegami una cosa, che cosa volevi prima? Non hai capito cosa ti ho detto? Sì, ma metti bene il telefono che non capisco un cazzo. Se tua madre avesse abortito o se tua moglie avesse abortito, ci sarebbe viola al mondo. Ma chi hai capito cosa ti voglio dire? Che l'aborto è un omicidio? Abbassa la radio, dai. Abbassa la radio. Rimbomba tutto, sembri il Papa nell'omelia dell'Angelus. Abbassa la radio, dai. L'ho abbassata. No, chiudila proprio. Bisogna chiuderla. Ma chi c'è? Tuo marito pure? Chi c'è? Con tuo marito? L'ha messa per terra. Abbassa la radio, non vuol dire che la metti sul pavimento, vuol dire spegnerla. Allora, Maria Rosa, non ho capito bene la storia. Scusami. No, la cretina sei tu, Maria Rosa. Fai fare delle figure di merda ai veneti. Ma perché da Vicenza chiama Maria Rosa o la Loris? E non chiama uno intelligente? Ci sarà uno intelligente a Vicenza. Zitti un attimo, tutti e due. Maria Rosa, allora, voglio capire una cosa. Stai zitto, buffone, quello da Padovano. Scusa, Maria Rosa, non ho capito bene. Tu sei contro l'aborto? Sei contro la logica. L'aborto è un omicidio? L'aborto è un omicidio, benissimo. Allora, le partiamo donne dal presupposto. Se la buona donna di tua madre avesse abortito. Ancora, questo paragone. Tua moglie quando aspettava Viola avesse abortito, ci sarebbe Viola al mondo? Ma abbiamo deciso insieme di non abortire, rincoglionita. Rincoglionita. Se non capisco come mai non riesci a mettere un'Ikea giù che vuota che hai. Ma perché le donne devono essere libere di decidere il cazzo che vogliono? Anche le coppie, diciamo, possono essere libere di decidere quando scopano, perché tu forse ti sei dimenticata che la gente scopa, può scopare liberamente. ovviamente può succedere che uno rimane incinta. Cosa che bisogna fare, Maria Rosa? Mettere per forza al mondo? Questo è che una incinta fa l'aborto, uccide un bambino. Non è bisogna vero. Costringere, ma no, non è vero, costringere. Quel grumo che c'è. Lo avesse fatto, forse avrebbe fatto bene, quella volta, però non l'ha fatto, perciò tu devi soltanto ringraziare tua madre. Ma quindi Maria Rosa, mia madre bisogna voleva, costringere, mia madre voleva costringere avere le donne a partorire ad ogni costo, bisogna costringere a partorire ad ogni costo, scusami. Ma guarda, Maria Rosa. Guarda che intanto ci sono tanti modi per non restare incinta, Se uno invece resta scopare, incinta, per esempio, e se uno resta incinta, che succede invece? Se uno resta incinta lo stesso, che succede? Fai il bambino. Fai il bambino per forza. Cioè, la leghi a 9 mesi. La leghi a gambe aperte 9 mesi su un letto finché non sgrada come una vitella. Però scusami, Maria Rosa. Perché ha votato nelle ultime elezioni, signora? Maria Rosa? Signora? Hai votato per Gio Formaggio, per caso? Signora, fino a... Signora? No, beh, non può chiuderla qua, scusami. C'è te. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità? I ristoratori che combattiamo, noi sapremo bene far dileguar, e al grido nostro quella canaglia di Polegato dovrà tremar. Allora Enzo da Roma, vai Enzo, dimmi. Qual è il prototipo dell'attentatore? Mamma mia. Il prototipo è penne pieno di testosterone che vuole scopare. Questo già. Può essere. Allora gli dice che se muore in combattimento va in paradiso e si fa 70 uri, 70 vergini. Sì. E che palle le vergini. Se noi l'Occidente... Questo è lucido, minacciassimo questi ragazzi, sì, docente di islamologia, che se muoiono gli mettiamo nella bara pure un maiale. Sì, vecchia teoria, sì. E otterremo ottimi risultati. Dove insegna lei? In quale università? A Princeton? Dove insegna lei? Alla Columbia University? Dove, dove ha preso il master in Islam? Howard Stern. Sì, ad Howard. Howard Stern. Però è interessante questa cosa. L'idea di eliminare i terroristi è dire che quando muoiono in realtà non si scoprono le vergini ma vengono sepolti con i maiali. Meraviglioso. Ciao Enzo. Ciao ragazzi. Allora ragazzi, adesso vi presento un signore che è un personaggio molto interessante. Fa il gigolò di professione, il gigolò Igor, il grande Igor da Salerno. Oh, Igor. 30 Igor anni, Igor. No, Igor è italiano. Ciao Igor, come stai? Ciao, bene, bene. Sul letto in... Come dire? Mollemente adagiato letto, anche tu, mio, sì? Del mio habitat naturale, no? Allora, stupendo. Allora, senti Igor, voglio sapere subito da te se innanzitutto in questo periodo tu fai gigolò praticamente da 11 anni, no? Giusto? Sì, esatto. Prima prostituzione a 19, con chi l'hai fatta la prima? Ma con una coppia, devo dire, nemmeno una grande esperienza, insomma, non è che mi piacque così signor tanto. Gigolò. Signor gigolò, sì. Allora, quanto gigolò ti hanno pagato? Quanto ne ti hanno la pagato prima volta, marchetta? Quanto ti hanno pagato e quanto ti fai pagare adesso? Guarda, ho iniziato con lavori anche a 150-200 euro, adesso non, è poco. Non meno di 1000-1500 addirittura. E cosa gli fai? Ragazzi, uno per 1500 aspetta. Per 1500 deve rintinteggiarmi anche la casa, non è che deve solo scoparmi la moglie, non mi capisco. Però scusami Igor, capitale, ragazzi, dai. Però se andate a vedere nel sito di Igor, Igor Gigolò, sì. Giusto? Vai a vedere là, ci sono tutti i trattamenti, tutti i servizi che fa, ed effettivamente le cifre sono quelle, cioè le cifre che lui, poi uno ci può stare o non ci può stare, sono cazzi suoi, cioè questo Igor. Che vuol dire? Qua c'è signor scritto Igor. Un'ora, prezzi Igor, a partire pensate. Dalle 2 ore, un'ora, giusto? Sì. Poi a partire dalle 2 ore, scusa, un'ora o 2 ore? Uno, quanto cioè, può no, stare? Nel senso che anche se mi chiami per un'ora paghi comunque il prezzo di 2 ore. Ah, solo la conoscenza circa 2 ore 1000 euro, cioè per conoscersi 1000 euro senza scopare. Non frega di conoscere Igor, scusami, cioè, non è il mio mestiere. Ma... Allora, aspetta, voglio capire bene. Allora, un'ora, per conoscersi 1000 euro? Sì, diciamo che 1000 euro è la tariffa base che di solito si utilizza con persone che mi vogliono conoscere, vogliono fare magari un aperitivo o una prima conoscenza, perché sai, come puoi ben immaginare, le donne sono un po' più, come dire, hanno un po' più, provano più vergogna, no? Se tu, giusto per la conoscenza, 1000 euro, poi il resto si vede. Ci sono vari... Questi prezzi sono ovviamente, derivano da un'esperienza di oltre 10 anni. Ma non sono trattabili o no? Certo, te lo puoi permettere. Sono trattabili o no questi prezzi? Cioè uno viene e dice, no, scusa, guarda, ti voglio conoscere, però 700, 800, no? Bah, di solito non tratto mai. Non tratti mai. Negli ultimi anni non tratto più. Bene, voglio capire una cosa. Non è che tu offri solamente sesso e basta. No. Cioè, non offri solamente sesso. Però le tue misure... No, ma ci sono vari servizi, poi te li spiegherò. Vari servizi. Le tue misure quali sono? Cioè, questo spieghiamo. Le misure del piede? No, del cazzo. Sì, le misure del cazzo. Ma guarda, questa è una domanda che ovviamente io posso rispondere, risponderò a te, ma di solito le donne non chiedono mai le misure. Una donna di classe non si espone così. Non gliene frega niente, non gliene frega niente. Siamo intorno ai 20 centimetri. Siamo intorno ai 20. Cioè nessuna si è mai lamentata, questo è il problema fondamentale. Così dicono. Ora però, perché è particolare Igor? Sono proprio curioso. Sei curioso perché in questo periodo in cui avrai, non lo so se hai diminuito il lavoro o no, in questo periodo. Assolutamente, credo almeno il 70%. Ah, 70% di meno. Sì, tu alle tue clienti, alle coppie, insomma, poi ci spiegherai bene la tipologia di clienti che hai, fai fare qualche tampone, qualche test oppure te ne fotti? No, diciamo che come ho rilasciato un'intervista proprio pochi giorni fa al giornale .it, e insomma, diciamo che qualche test sierologico l'ho fatto, dico la verità. Cioè tu hai chiesto... E l'ho richiesto. Ah, l'hai richiesto. Cioè se una coppia che vuole venire con te, tu dici, fatemi vedere il test che avete fatto, magari... Sì, sai, Giuseppe, di solito le coppie, quelle diciamo milionarie, no? Quelle ricche davvero, si chiedono comunque sempre le analisi. Cioè, quindi comunque io le faccio in maniera abbastanza... No, tu le fai d'accordo, per conto tuo, ma il test, sto parlando dei test anti-Covid naturalmente, sierologico... Anti-Covid ovviamente in questo periodo si... Cioè chiunque vuole andare con te, tu chiedi un test? Ma sì, di solito sì, magari con qualche mia cliente abituale appunto... Puoi farne a meno? Ho fatto a meno, ma dopo il primo periodo di lockdown, quello marzo-aprile, insomma il primo... Lì avevo un po' paura e quindi l'ho fatto fare un test sierologico perché il tampone ancora non era così diffuso. Senti una cosa, comunque tu normalmente in questo periodo se qualcuno ti chiama, una coppia, una donna eccetera, tu dici prima di venire con me fatti un test sierologico. Tu hai diminuito del 70% il tuo fatturato, ma tu fatturi, non ho capito, no, è tutto in nero. Io si fatturo da oltre 3 anni. Addirittura, e come? Cioè paghi le tasse? Cioè sei un prostituto che paga... Con quale indicazione? Purtroppo la magistratura italiana ha detto che chi si prostituisce, perché il mio lavoro viene visto come prostituzione, io posso fare anche da autista, da finto fidanzato, posso anche evitare quindi di fare sesso, ma per lo Stato io mi prostituisco, quindi prostituisco il mio tempo. Poi che ragione ha nella partita IVA? Che ragione sociale ha quando emette partita IVA? Quando emette fattura, scusi? Emetto fattura come servizi alla persona non classificabili, proprio come dice. Dunque tu paghi le tasse, tu stai pagando le tasse da 3 anni, giusto? Io sto pagando le tasse da oltre 3 anni. E dunque avrei chiesto qualche rimborso indietro in questo periodo, alla regione, allo Stato, eccetera, avrei chiesto qualche... Assolutamente. Cioè, quante hai preso? Scusa, è incredibile sta cosa qua. Quante hai preso? Io ho preso dalla regione Campania 1000 euro come libero professionista e due tranche di 600 euro dallo Stato, in quanto lavoratore autonomo. Cioè, la cosa incredibile. Cioè, lui è sostanzialmente un gigolò, o non fa solamente sesso perché ci sono vari servizi, finto fidanzato, poi li spiegheremo bene. Bene, ma abbiamo già spiegato una volta. Ma la cosa incredibile è che prende i soldi perché fattura. Cioè, lui fa un lavoro che sostanzialmente non è riconosciuto dallo Stato perché fa gigolò, cioè perché la prostituzione servizi non è riconosciuta. Alla persona, però, siccome fattura in quanto servizio alla persona, alla fine ha preso dei soldi sia dalla Regione Campania che dallo Stato. Cioè, esatto, ma basterebbe andare da un bravo commercialista e un bravo avvocato. Lei ha fatto la vera mandracata per ricordare il grande Gigi. No, ma in realtà no, perché lui paga le tasse. Perché lui le tasse le paga, potrebbe incassare. Sì, però è una forma di mandracasa. Potrebbe incassare tutto in nero, cioè, chiaramente incassando tutto in nero incasserebbe molto di più. Quanto fai all'anno più o meno? Ma, su questo posso permettermi di non rispondere. Perché un po' di nero lo gratti, un po' di nero lo facciamo. Ma è giusto che sia così, ragazzi, ma questo fa giro loro. Un po' di nero che... lo gratti. Ma certo, ma è normale. Giuseppe, io mi permetto, io credo che io sia di esempio, io dico sempre che chi si loda si improda, però io volevo sentirmi un cittadino come tutti gli altri, un lavoratore italiano. E hai cominciato a fatturare. Hai cominciato quindi ho cominciato a fatturare perché... Però non dica di esempio, per piacere. Perché per piacere. No? Perché no? Perché fai gigolò. Perché fai gigolò. Per esempio, per piacere. Perché fai gigolò. Rubbia è di esempio. Nobel per la fisica, Rubbia è un esempio. Non dica... Andava tutto benissimo fino a qualche secondo fa, io rispetto. Ma perché uno che scopa delle coppie, però uno che scopa una donna a pagamento, perché non dovrebbe essere un esempio? Fornisce dei servizi alla persona, fa godere delle persone, fa stare bene delle persone, cazzo. Rubbia è un esempio, Carlo Rubbia è un esempio. Ma lui probabilmente Igor ha salvato un sacco di matrimoni, te lo dico io, cioè probabilmente matrimoni che erano in crisi, magari è arrivato lui, si è scopato la moglie, quella coppia è diventata improvvisamente felice perché la donna è appagata e non ha avuto bisogno di trovarsi un amante, cazzo, giusto o no, Igor? Ti è successo o no? Ti è successo o no? Tantissime volte io sono stato, ovviamente incontro non solo donne, sono etero, ricordo perché ci sto ascoltando, ma spesso vengo contattato. Lei lavora solo coppie. Nell'area anche della Campania o lavora anche in altre aree geografiche d'Italia? Cioè, per esempio a Roma, potrebbe farlo. Per adesso posso affermare che lavoro in tutta Europa. Lo dico addirittura tutta Europa. Tutti fermi. Adesso torniamo tra un attimo. Torniamo tra un attimo perché c'è il capitolo vergini. Cioè, come sapete, molti gigolò vanno con persone che si dichiarano vergini. Vabbè. E credo che lui abbia incontrato a pagamento una vergine giusto di 40 anni? O sbaglio? Assolutamente. Fermi tutti, grande esperienza. Igor e la vergine di 40 anni. Sembra Igor. Grande racconto popolare, sembra gli islamici con le vergini. Igor con la vergine, dai, che funziona. Rai 1, prima sonata. Allora, gli chiedete per favore alla scienziata lì dello squirting, un litro che squirta un litro e mezzo, quel litro e mezzo da dove arriva? Da dove ce l'ha? Beh, questo è un buon in tema. In termos. Ingegnere. È un buon tema. Ma dai, ma ragazzi, ma non diciamo cazzate, diceva sempre il mio amico. Mm. Ho squirtato un litro e mezzo, io me chiamo tutti i giorni David Copperfield. Ma che cazzata, ecco perché si dice raccontare delle chiavate, ma sono buoni tutti a raccontare delle chiavate. Ma per favore. Io non ho capito una cosa, se quella ha detto che ha squirtato un litro e mezzo, perché non crederle? Non ho capito. Ma, cioè... ma a qualcuno chi se ne frega? Posso ma perché dirti? Chi se ne frega? A me già questo tema del squirt, voglio neanche pronunciare il nome di quella lavoria, mi fa senso, è orrore. Perché ti ma, fa orrore ma lo squirting? Mi fa orrore perché l'idea orrore? Di parlarne anche stessa. Ma perché ti ma fa orrore di là lo dell'orrore? Non vabbè, ho è una cosa mia. Senti, ma è una cosa tua, ma perché personale. Ti fa orrore? Mi avere fa orrore. La mano bagnata quando tocchi mi la figa di una. Orrore. Mi fa orrore. No, ma non quello che hai detto, mi fa orrore la conversazione. Perché se esce qualcosa, se esce uno schizzo così mia. Ti fa orrore. Ma che sei diventato? Per di più, stare eri lì un a porco, ragionare. Eri un porco fino a qualche anno fa. Ma una cosa incredibile, guarda, è incredibile. Poi stare qui a dire un litro, due litri, ma tre roba, litri. Pazzesco. Ma è un tema. Vabbè, torniamo a Igor Gigolò. Abbiamo capito tre cose da Igor Gigolò from Salerno, che è la città del governatore del mondo. E riassumo Igor per completezza della discussione. Allora, sì. Igor è un gigolò di 30 anni. E fa questa professione da 11, professione assolutamente legittima, è uguale a quella del giornalista perché un po' siamo puttane anche noi, emette fattura regolarmente come servizio alla persona da un po' di anni, ha una ventina di centimetri di dotazione e richiede test sierologici ai suoi clienti. Ho fatto un riassunto, mi sembra completo, volevo andare su alcuni particolari, su alcuni dettagli però. Beh, dovresti chiedere, scusami cosa, Giuseppe, dimmi. Dovresti chiedere se mai una cliente di costui che si fa pagare 1000-2000 euro a colpo poi ha squirtato. A questo ma punto sì, vabbè, quello è normale, capitato. Qualcuno avrà pure squirtato, no? Immagino, Igor, giusto? Avrei incontrato qualcuna in 11 anni, qualcuna che squirta l'avrà incontrata. Che domanda è? O no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Anche se in che percentuale? In che percentuale, Igor? Molto in realtà, più sono più le ragazze che ho incontrato al di fuori del mio lavoro, giovani che squirtavano. Scusami, questa questione delle vergini, torniamo a bomba sulla vergine. Dunque, tu fai anche un servizio che si chiama sostanzialmente fai da sverginatore. Oh, questo è il punto. Ti offri come sverginatore, e questa è la realtà, ragazzi. Ma che meraviglia. Però evidentemente c'è un piccolo mercato. Cioè, quante volte ti è capitato, Igor? Ma mi sarà capitato 3 volte in 11 anni, pochissimo. 3 volte in 11 anni, una di 40 anni addirittura. Sì, di 40 anni questa donna, insomma, che si è ritrovata in un'età adulta senza aver mai fatto sesso. E vabbè, e cos'era, ormai... un boiler questa qua? Cioè, assomigliava al paracarro probabilmente. No, era anche una donna, diciamo, normale. Ma quanto costerebbe? Quanto costerebbe il servizio di sverginazione, diciamo, no? Guarda, più o meno, quanto costa? Ma no, io prendo, diciamo, sempre vado ad orario, diciamo, vado a ore, cioè nel senso che... Cioè due ore, diciamo, che per una sverginata possono bastare, quanto costa? Sì, certo. Sì, diciamo che, allora, di solito una donna che richiede questo servizio difficilmente richiede un servizio di un'ora. Sì, perché ha bisogno di conoscere la persona che ha di fronte, di lasciarsi andare, quindi di solito fanno una serata, insomma, che sono 3.000, che sono 3.000, se non sbaglio, no? 3.000 tutta la notte. 3.000 tutta la notte. 3.000 tutta la notte. Ore, diciamo. Allora, io posso dire un altro servizio importante, mi sembra, è quello di boyfriend. Che vuol dire finto boyfriend? Che vuol dire? Ma diciamo che la boyfriend experience deriva da, diciamo, da, è un termine inglese che viene utilizzato molto in America, cioè? C'è anche la girlfriend experience, quindi diciamo un finto fidanzato adore che... diciamo accompagnatore, un accompagnatore. Un accompagnatore, il tuo è come, cioè nel senso, tu fai tutte le cose che faresti col tuo fidanzato, però... E perché uno dovrebbe fare una cosa del genere? Per fare bella figura in una cena? Allora, per fare bella figura in alcuni ambienti, perché donne che manager che non hanno tempo di trovarsi un vero fidanzato, ma vogliono comunque andare alle terme il weekend, vogliono andare a visitare Parigi, vogliono... Ma quanto si può spendere? C'è qualcuno che ha speso una fortuna per te? C'è una persona che magari ti ha accompagnato durante questi anni che ha speso una fortuna? Sì, tipo? Ci sono state donne che credo abbiano speso, diciamo, oltre 100.000 euro. Oltre 100.000 euro? Sì, ma qualche volta sei andato... Viaggi, regali, orologi... Ma qualche volta sei andato anche insieme, che ne so, in vacanza con una coppia? Allora, sono andato una volta... una delle mie prime clienti, tra l'altro, ho avuto una relazione abbastanza lunga di anni, diversi anni, e ricordo che fu la mia prima vacanza di una settimana in crociera. E sulla crociera c'era anche, cioè lei praticamente era con il marito e le figlie. Col marito e le figlie? E io avevo un'altra cabina. Ma il marito era consapevole? No, il marito no, ci vedevamo di nascosto nella mia cabina. Non ci posso credere, cioè tu di notte in crociera ti scopavi la moglie che era là col marito e con le figlie? Sì. Lei era innamorata di me. E lei ti ha pagato tutto. Tutto, la vacanza più... Invece un servizio soldi. Interessante è il servizio da divorziatore, che io potrei... Che potrebbe essere veramente utile. Ecco, il servizio divorziatore, questo è molto interessante. Lei proprio lancia spin-off nella sua azienda, proprio lei, Lei proprio avrà la palma per l'innovazione. No, ma che cos'è? Spiegami un po' il servizio divorziatore. Il divorziatore è un servizio che ho inventato qualche anno fa. Tra l'altro i servizi che noi Cicolò creiamo vengono sempre da nascono da richieste di clienti. Beh sì, certo, questo non c'è dubbio. Allora nascono da richieste di mercato. Questo discorso del divorziatore nacque qualche anno fa quando un uomo mi pagò per sedurre la moglie e poi per trovarci insieme a letto. Quindi per evitare danni, non ho capito, questo qua evidentemente esatto. No, perché voleva divorziare, ma voleva delle, cioè, come dire, voleva dare la colpa alla moglie, voleva dare la colpa alla moglie che era una poco di buona, e quindi quante volte ti è successo una cosa del genere, cioè di essere utilizzato come esca? L'avrò fatto 4-5 volte. Personaggi famosi categorie di personaggi con cui hai avuto a che fare? Beh, sicuramente ho avuto a che fare con imprenditori, con coppie ovviamente, imprenditori importanti, mi è capitato anche qualche volta qualche conduttori radiofonici. Ma politico per fare cosa? Politico, questa è una storia un po' particolare, credo fosse siciliano, ci incontravamo a Roma, la prima volta mi fece uscire con la sua compagna, mi fece andare a cena e poi tornammo in albergo e lui praticamente con la stanza... quasi completamente al buio, lui doveva, lasciamo la porta aperta della stanza e lui ci spiava da questa fessura. Vabbè, faceva il cook, diciamo, il cook. Sì, diciamo così. Però poi quando finì il rapporto, lei andò in bagno, lui venne vicino a me sul letto, si sedette a fianco a me e mi mise una mano sulla spalla. E io lo guardai e dissi, guarda, questi non erano i nostri accordi. E lui capì, insomma, che mi disse, no, scusami. Cioè, che voleva fare? Ma probabilmente voleva approfittarne della situazione, insomma. Cioè, voleva stare con me, probabilmente aveva questa bisessualità latente. Mamma mia, che ambiente, ragazzi. Igor from Salerno, la città del governatore del mondo. Ciao, ragazzi. Allora, ragazzi, prima di lasciarci, c'è ancora qualche minuto. No, chiudiamo prima. Aspetta, io voglio chiamare un signore che si chiama Lockdown. No, ma anche Lockdown purtroppo lo faranno qua. Ho voglia di scappare, lo sai, mi viene voglia in queste ore di scappare. Mi sa che mi rifugio da Gottardo nei prossimi giorni. Vai nella tua, rompo il confine della Lombardia e mi rifugio da Gottardo. Sì. Se me lo consentono, mi rifugio da Gottardo. Non nello stesso lettone, però, Guarda, tu non entri. Questa tua fuga mi puzza un po', Sicuro, questa pagliacciata, non c'è niente da indagare. Io scateno i miei mastini sul territorio. Voglio chiudere questa pagliacciata della Lombardia. Voglio scoprire questa pagliacciata della Lombardia che chiuderanno sicuramente. Però io chiamerei un signore, un leghista, che è sindaco di un paesino in provincia di Savona, il quale vuole tenere i ristoranti aperti dopo le 23. Oh, per carità. Dopo le 23. È un eroe. Chiamiamo, se ne fotte di Conte, eccetera, e vuole aprire fino alle 23 ristoranti e bar. Vai. Sì, pronto. Parlo con la resistenza? Mi mancavi, Cruciani. Parlo con la resistenza o no? Oppure ti sei già tirato indietro? Dimmelo subito. Parli con il buon senso, non con la resistenza. Io non mi tiro mai indietro. Ti sei messo in questa cosa qua e non ti tiri indietro. Dunque, aperti i ristoranti fino alle 23? Sì. Buon senso. E come fai? Come ristoranti fino alle 23? Qui stiamo andando verso praticamente un altro lockdown e tu lasci aperti i ristoranti. Arriverà la polizia in ogni ristorante? Assolutamente no, c'è un'ordinanza, quindi finché nessuno la impugna l'ordinanza è valida. Sì, oggi non l'ha impugnata ancora nessuno, quindi. Cioè, mi stai dicendo che in provincia di Savona, a Pontimbrea, dove tu sei sindaco, i ristoranti sono aperti fino alle 23, i bar, i ristoranti. Via, polizia è purtroppo fa assolutamente bene. Non è Gandhi, è un problema di salute pubblica, mette a rischio la salute. Coraggiosissimo. Possiamo discuterne tranquillamente o dobbiamo sempre fare le solite provocazioni? No, non c'è da discutere né provocazione. Lei mette a rischio, è un irresponsabile. Ma dov'è il rischio? Perché non irresponsabile. Non c'è rilevanza scientifica che dica che si ci ammala nei ristoranti, anzi. Ma cioè da nessuna parte allora ci si ammala, a scuola vero, no, nei teatri vero, no, nei cinema vero, no, cioè, solo esatto, sugli autobus ci si ammala. Solo sugli autobus. Tu stai dicendo che i DPCM di Conte a Pontimbrea non valgono. Cioè stai dicendo nel tuo comune non valgono. Non vale la parte della chiusura alle 18 perché non è una parte. Ma lei non è un monarca, lei non è il re. Non è che lei ha una costituzione octroyée concessa al suo popolo. Lei non è un sovrano sciolto dalla legge. Parli seriamente lei non è un sovrano, lei deve applicare le leggi dello Stato, capito? Beh, o no? Dipende, se sono illegittime ma non dipende, scusami, non decidi tu se sono incostituzionali o no, però io ripeto, ma difatti io faccio un atto amministrativo, aspetto che qualcuno lo impugni e lo andremo a discutere in un tribunale, e intanto per il momento restano aperti i ristoranti, certamente, e mette a rischio la salute dei cittadini. Noi siamo a contagio zero per quello che abbiamo fatto, alla differenza di Conte. Noi abbiamo provveduto ad andare a prendere le mascherine quando non c'erano, abbiamo messo gli anziani in casa. casa, gli abbiamo portato la spesa a casa per 3 mesi con la protezione civile. Cosa vuol dire? Avete fatto il vostro dovere. Invece che aspettare 6 mesi sarà oggi. Avete fatto il vostro dovere, che vuol certo, dire? Certo, cosa che non fa il Presidente del Consiglio. Sì, però voglio capire una cosa. Avete fatto il chi vostro ci dovere? Va al ristorante da voi? Non la gente, in questi giorni c'è gente... Questo io non posso sapere chi ci va al ristorante. Se ci andranno. Io ho dato la possibilità di stare aperti. Non è che poi vado anche a prendere la gente per portarla al ristorante. No, vabbè, quello d'accordo. Magari i baristi e i ristoratori non vogliono essere multati e non apriranno. Cioè, non apriranno, ma nessuno li obbliga. Io vado a cena nel ristorante stasera. Quindi... Cioè tu vai a cena al ristorante stasera, certo. A Ponte Imbrea. Parenzo, certo. Io non ho capito, dovrebbero intervenire i carabinieri. Secondo te cosa bisognerebbe fare, Parenzo? Spiegami, secondo te, di fronte a Camiciottoli, cosa bisogna una fare? Una cosa molto molto semplice. Camiciona lì, camicetta. No, Camiciottoli. Va bene, sì, camicetta, che sia il sindaco. Colpa sua, l'educazione sì. Non fa parte esatto, di il signor sindaco, meglio maleducato. Meglio maleducato che un uomo delle istituzioni che disattende una legge dello Stato. Intanto, primo, ma non lo decidi tu, sindaco. Non è la tua monarchia quella. Non è la tua monarchia. Non è la tua monarchia. Adesso, non è che tu sei l'unico sindaco d'Italia che fa l'atto amministrativo per sterilizzare. Ecco, appunto. Io sono l'ultimo sindaco d'Italia che tiene la sua comunità in particolare e cerca di fare le cose che vadano bene per la sua comunità. Ma cosa ha fatto di male sto sindaco? Poi, alla fine, uno che cosa fa di male se va a cena nello stesso ristorante dove è consentito pranzare? No, io dove veramente ero già pranzo, questa cosa. Dove ero già pranzo? Certo. Capito, però, ragazzi, a pranzo anch'io sono andato a pranzo fuori perché si può. Ma che vuol dire? Con il distanziamento lo fai ma anche lo credo, la sera. Hanno fatto spendere migliaia di euro ai ristoranti per farli mettere a regola, poi si sono decisi di chiuderli. Tu devi tutelare la tua comunità e devi stare alle leggi dello Stato, perché tenendo aperto metti a repentaglio la vita di tutti, dei tuoi cittadini e dei tuoi e di quei pochi turisti che vengono lì da te. La stessa, pochi o tanti, questo lascialo giudicare. L'unico aspetto, l'unica cosa da vedere lì è il sindaco, l'unico spettacolo che c'è da vedere in quella città lì è il sindaco, evidentemente. Però se era un modo per portare turisti in futuro, perché è un circo, hai trovato il ma modo giusto. Il circo è quando ce l'hai in trasmissione. Hai trovato il modo giusto. Resto, verremo resto, tutti in visita al tuo comune a visitare il sindaco. Non ti preoccupare, circo, finita però, la pandemia, verremo a visitare il sindaco circense d'Italia. Siamo 0-0 problema. Abbiamo contagi zero noi col Covid. Poi per il resto ne parliamo. Tu hai fatto questa. Io posso anche seguirti nella sta cosa dei ristoranti sì. Fino alle 23. Ma non mi interessa a me se mi segui oppure no. Voglio dire. No, ma posso così. Anche seguirti. Il punto fondamentale è un altro, che ti metti contro, cioè la polizia e i carabinieri. Cosa fanno stasera? C'è già una. C'è un'ordinanza del sindaco, quindi se nessuno l'ha impugnata l'ordinanza vige. Cioè, capito, più importante il sindaco del governo? Cioè che i ristoranti devono stare chiusi e in questo momento è più importante il sindaco del governo, stai dicendo? È un'ordinanza. Ma ho capito, l'ordinanza non è applicabile, dai Camiciotti, dai fai il sindaco, conoscerà la gerarchia dalle fonti. Conoscerà la gerarchia dalle fonti, dai. Un decreto del Presidente del Consiglio vale di più di quello di un sindaco. Però devi avere il coraggio di andare fino in fondo. Libertà, libertà, libertà, a costo di farti sbattere in galera. Questo è il punto, Camiciotti. Vada a cena in un ristorante. Sera vado a cena al ristorante. Arrivederci. A prestissimo. Ragazzi italiani! Evviva! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione. Lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.